cosa fate? No, mi sento Luca. Ma mi senti? No. Cosa mi stai rispondendo? No, era per romperti le scatole, se stavi giocando. Allora, ti riguardi, andiamo io lì. Ma ti senti ogni tanto, lo dico ogni giorno, ogni tanto, no? E qua ci sono gli amici. Non so se ti senti Alghero, vuoi fare la prova? No, Alghero per me è zero, io ci provo. Buonasera, salutoni cordiali all'amico di Alghero. Dai che Alghero ti ascolta, Santiago 3-4, la radio un po' bassa, ma ti tiro fuori, va? Ciao, miracolo, perfetto, Sant'Agostino poi un po' coperta, quindi, già va bene, dai. No, no, va bene, va bene. L'ideale per ascoltare bene e fare un buon questo con te, dovrei mettermi in cuffia, sono un po' impossibilitato, però sì, riesco a sentirti. Ecco, devi considerare che ho un antennino buttato sul terrazzino lì, non ho grandi possibilità di avere una buona antenna, capito? Già è tanto per me. Già va bene, a voglia, con l'antennino riesce ad arrivare anche fino a qua. Io ho un traliccio che non finisce più, per uscire dai palazzi e esco senza aiuti, non arrivo da nessuna parte. Luca, devo fare capriole per arrivare là. Raffa, mi ha permesso, smontando un PC. Mi ascolto, dai, grazie. Ora che mio, lo smonti. Non c'è problema. Ascolta, Mario, ma tu, non so se conosci qualcuno che fa, riparazioni di, praticamente c'ho le entrate di jack rotte, rovinati del portatile, ne sai qualcuno che ce lo ripara? Fammelo vedere, vediamo un pochettino come lo lasci là in negozio e vedo un pochettino cosa si posso fare, là. Vabbè, allora no, lui ha stato al computer perché ormai ho dei contatti che purtroppo li sento solo fare del computer, comunque appena mi compro un nuovo, te lo passo e vorrei vedere se ce la fai già mettendo a posto, perché mi hanno detto che si può aggiustare, io si può aggiustare perché questi ingressi sono saldati nella scheda madre, un casotto, bimbo. Guarda, se sono saldati, se l'hanno costruito il sistema per ripararlo, cioè. Se non c'è sistema per ripararlo vuol dire che è molto messa male, ma mi sembra impossibile la cosa. Esatto, lo sto dicendo, ma un attimo lo sapere. Allora ti fa rattore per Mario, se l'hai ascoltato, vai. Papa sì che lo senta Mario. Ciao Mario, ben sentito. Ma siccome Mario è tutto indaffarato a smontare il computer, è inutile che gli rompiamo le scatole, giusto Mario? No, vi ascolto volentieri, è che quando si mette a contare queste cose è un po' complicata, devi riuscire a capire dove entrare bene, tranquillamente, senza far danni. Assolutamente, ti capisco perfettamente. Giuseppe Leoncino! Avanti, Sabatore, buonasera. Ciao caro, hai visto che arrivi tranquillamente giù ad Alghero con il lavoro che hai fatto all'antenna? Eh? Grazie al signor Antonio Grote che ha fatto il lavoro, mi fa i buchi e poi a Antonello Pomponio e grazie a Occhi di Gatto che mi ha regalato l'antenna, hai capito Sabato? Cappa è una cosa in comitiva, hai visto? Come le comitive che c'erano nel 68. Ma anche a me cade mai la quarantena, lo stesso, l'accento, sono dico, per uno volentaroso che ti vuole aiutare lo fa senza problemi, non è quello il problema. Vabbè, ma è giusto darsi una mano d'aiuto, è giusto. Luca, ma con quanto cavolo stai uscendo? Io sto uscendo con una sessantina di watt. Non puoi uscire come tutti i cristiani con 10? Io allora, quanto lo lascio, portante bianca 10 watt. Quello rimane così stabile. Poco a poco sali, lo butto giù, ma non so, aspetta. Cosa abbasso qua? No, 50 sono adesso, vai. Luca, ma è la ventola di quella cosa là che si sente oppure c'è qualche disturbo? Ho messo la moto raggricola che ci sta arrando il terreno. Roba raggricola. Tua madre che sta facendo cose in cucina. No, è roba della parete, dai. A cappa. Ehi, comunque, Salvatore, com'era adesso che abbiamo sollevato un po' di più l'antenna, come arriva lì a Cappuccini? Tutto di un pelo i 9,20. Prima ci arrivavi giusto e ora lo superi di un pelo. È chiaro che per le potenze impegnate adesso, per aumentare anche di qualcosina, la potenza che dovresti impegnare è esponenziale, quindi insomma non possono esserci grandi differenze. Di quanto l'hai sollevata stavolta? Guarda, gli ho messo un altro tubo, sarà un massimo di 2 qualcosa. Adesso ne devo mettere un altro pezzo di tubo per sollevarla ancora un po' di più. Con questi tubi, buonasera. Oh, Sandrino, buonasera da Porto Torres, come stai? Ti vedo leggermente giù. Ciao carissimo, buonasera anche a te. Saluto a Salvatore, saluto a Luca, giù. Insomma, soliti di vivere, dai. Ehi, va bene. Riprendi Salvatore per Sandro da Polo Torrese. Abbiamo anche il nostro amico Adalghero, che rilancio, non so se riuscite poi a copiarvi, poi rilanci a Sandro da Porto Torres. Sì, da parte mia sembra che tra una cosa e l'altra per QRM0 sto ascoltando a tutti. Presentito Sandro da Porto Torres, Sandro Conan da Alghero, vai per te. Aspetta, Alghero, buonasera Sandro Conan, in Alghero, qui che ti sto modulando, Sandro da Porto Conan. Entrambi con lo stesso nome, ok? Mi fa piacere, ma siccome io anch'io sono un po' relativo, Sanno, mi sa che sei troppo sparato qua, Sanno di Porto Torres, stavato un po', sei troppo complesso, che hai detto Sandro? Quindi vedete, vi piacciono proprio i supermercati, Conan con la N di Novara finale, vai per te. Ok, vediamo un attimino, forse ero troppo esagerato con la modulazione. Vediamo un attimino, Luca va bene adesso? Va bene. Perfetto, metti un chiodo e blocca tutto. Perfetto Sandro, sta uscendo super bomba qua. Ok, ma purtroppo non ho potuto ascoltare il passaggio di Sandro Conrad. Ok, siccome io sono un po' negativo, come ho detto precedentemente, però che era, voglio sentire Sandro Conrad e poi mi ascolta. Vai Sandro. Conrad. Sì, provo a ripetermi, vediamo un po'. Dicevo Conan, con la N di Novara, non la D di Domodossola, non lavoro al supermercato. Sì, Santiago 3, picchi positivi notevoli, fino a Santiago 5 abbondanti, è una bellissima radio, anche se meno male l'hai abbassata perché tende a sparare un pochino, tanto che quasi quasi sembra che slitta di poco e avere una tendenza a queste bottine ferme, invece si tende a farti slittare appena appena. Ok, mi fa piacere, diciamo che Alghero, no, perché quanto diciamo la mia posizione, diciamo, sono negativo per Alghero, però a quanto pare, diciamo, riesco a farmi ascoltare. Va benissimo. Salvatore, a te, Michael, l'antenna non l'ho sollevata. Hasta luego. Eh sì. Ascolta, invece una cortesia, mentre sto facendo questo passaggio, mi controlli un attimino il mio disegnale, che non mi sono mai segnato com'è la ricezione da parte tua della mia portante. Ok, Salvatore, qui dalla mia, tramite la mia antenna ti ricevo con un Santiago di 9-10 con leggeri picchi positivi. La radio però mi sembra leggermente compressa, Sì, comprensibilissima. Allora forse ero anche un po' troppo vicino al microfono stavolta. Ogni tanto me ne dimentico e me lo attacco alle labbra. Ok, perfetto, la grande. Adesso sei proprio stereofonico, vai più che bene. Perfetto, ok, Giuseppe, a te l'antenna. Sandrino, vabbè, cosa dire, oggi abbiamo finito il super lavoro dell'antenna, sa, abbiamo piattato tutto quanto grazie al nostro amico caro Antonio Grotte, che mi ha fatto un favore favorissimo di prestarmi, di fare i buchi nuovamente nel muro, e poi abbiamo fatto con Alessio tutto quanto, abbiamo piattato questa benedetta la Ringo, e abbiamo finito per adesso. Giuseppe, ti posso dire che dalla mia postazione hai migliorato moltissimo, non poco. Io diciamo, adesso tornando indietro con il tempo, che a volte facevo fatica diciamo a tirarti fuori, complimenti perché ti ascolto bene e hai migliorato moltissimo. Ok, rilasciamo un attimino l'antenna lì a Sandro Alghero. Sì, papà di Roger, dai, adesso si sta riempiendo un pochino la ruota e nel mio caso la 50 chiama per il carico. Signori, ne approfitto a salutare, ora al tuo microfono, 7351 circolari, ciao Sandrino, ciao Giuseppe, ciao Salvatore, ciao Luca, mi sto perdendo, mi sono dimenticato un altro. Dai, lascio a te il microfono Luca, lascio la parata in TRX e vado a fare carico, ci aggiorniamo dopo magari. Salutoni, a dopo, Sandro con Alghero. Vai Leoncino. Va bene, buona carica Sandro e buon tutto, ce la riscontriamo dopo oppure alle prossime, se coincide, dai. Avanti Salvatore per saluti a Sandro di Alghero, Cona. Perfetto, ok Sandro, non hai sgarrato un colpo perché non ti sei dimenticato nessuno. Luca probabilmente adesso c'ha un passaggio al PC obbligatorio. C'era anche l'amico Mauro che in QRX ci sta ascoltando, anche lui sta operando al computer. Ok, buon tutto, buon proseguimento e buon proseguimento di serata se non dovessimo sentirci, se no ci ribecchi tutti quanti qua a fare il nostro QSO serale. Vai Sandro Porto Torres. Ok, dai. Va benissimo. Diciamo non ci sono problemi, diciamo, a parte diciamo la distanza non è una grossa distanza, quindi riusciamo diciamo ad ascoltarci bene a vicenda. Va benissimo, dai. Ok, io mi stavo allontanando col mio computer che ogni tanto mi fa impazzire. Va bene signori, io ne approfitto perché anche io sono pronto per la carica. Quindi ne approfitto a salutarvi circolarmente, se poi magari coincide a più tardi. Ok, riprendi Salvatore. Prego. Appare che è stato il break. Ok, sa, tanto questo orario è oramai si caratterizza nelle entrate e uscite un po' di tutti quanti, perché chi più chi meno si va a mangiare e quindi la carica praticamente la facciamo tutta e poi ci ritroviamo più tardi sempre su questo canale. D'accordo, sa, dai, buon tutto, se ripassi in frequenza ci facciamo un'altra chiacchierata. Ok, avanti il break. Dai, Fabrizio da questa parte, saluto tutti. Mi sembra di aver sentito lì ad Alghero qualcuno, mi sbaglio, Salvatore. Ciao Fabri, Sandro Conan, non so se è ancora in ascolto, prova a rilanciartelo e stava chiudendo, stava andando a fare carica. Sandro Conan, se copia Fabrizio. Eccolo, pronti. Sono in zona che sto finendo di chiudere un po' di cose. Dimmi tutto, Fabri, buonasera. Ciao, guarda, mi hai sentito? Ascolta, siccome ho sollevato l'antenna, mi dai un controllino e dimmi se ti ricordi il mio segnale, se è migliorato. Ottimo. La verità ti direi che è più o meno la stessa cosa, perché sei sempre a Santiago di Sei, con, a seconda delle tue tonalità, una cosa sempre, anche l'altra volta effettivamente ce l'avevi, a seconda della tonalità di come parli, hai avuto un picco positivo a 7, così come c'è stato un picco positivo a 5, un picco negativo a 5. Ok, dai, ti ringrazio, aspetta che faccio avanti il break, ma è comunque buona carica, se ci sentiamo più tardi, se ne voglia, che siamo qua, ci fa sempre piacere. Avanti il break. Fabrizio da Romeo 1 dopo, aspettati lì. A parte saluto tutta la volta, vado anche io a caricare, che se no mi lascio scendere, come si dice. Saluto, a più tardi se coincide, ciao. Ciao e buona carica. Anch'io mi scusate, mi stavo mangiando un po' di frutta. Romeo, vuoi vedere qualcosa? Ci spostiamo, facciamo un attimo, può essere aggregato un altro canale. Ok, vai su 27465. Ok. Ok, riprendo io. Allora, Giuseppe. Dimmi, Salvatore. Domani sei a riposo tu? Cappa. Noi domani, noi sì, ovviamente, noi ne approfittiamo per fare anche una gita fuori porta. E anch'io domani, se ce la faccio, faccio un salto giù a Coso, giù al Foro Torres e dentro al cimitero per andare a trovare il 50, diciamo, dai, di mia madre, capito? E kappa. Sì, no, noi ce ne andiamo a Nuoro e facciamo i saluti lì. E kappa, anch'io. E io ce l'ho, c'ho mio padre qua, e domani andremo a visitarlo. E dunque, anche quello è un dovere, Salvatore. E poi, domani sera, dovrei andare nel paese dove è nata mia madre, a Itiri, a trovare i miei nonni, capito? Che sono lo stesso nel cimitero di Itiri. E kappa. No, io ci ho tutti concentrati nello stesso. E niente. Noi quella giornata ne approfittiamo, passiamo a trovare mamma, poi coinciderà anche con le mie sorelle, ci troviamo un po' tutti. Sì, kappa, vabbè, come ti ho detto, quello è la prima cosa, Salvatore, è il primo dovere, che se ti manca un parente, un genitore, è il primo dovere che devi mollare tutto e devi essere lì, hai capito? Devi andare a farlo e basta, non ci sono scuse che non devono togliere. Giuseppe, mi scusi che invece è arrivata adesso la mia di ora per fare carica. Dai, riaccendo, lo lascio anche acceso così non si raffredda e non perdo tempo a aspettare che si temperi un pochettino prima di modulare. Se ci sei mi fa piacere scambiare qualche altra chiacchiera più tardi. Sì, non ci sono problemi, anche io tanto vado a fare adesso, vado a mangiarmi qualcosa, ci risentiamo dopo, oppure quando piace a te, sabato non c'è problema. Perfetto, dai, a dopo allora Giuseppe, buona carica e ci sentiamo dopo. Cappa di Roger, tanto lo lascio acceso anch'io, dai. C'è nessuno? C'è nessuno, dici? Quanti, Fabrizio? Fabri? Avanti. Qualcuno su 10? Affermativo. C'è Fabrizio? Affermativo. Beh, Fabri, smaltito la delusione. Sì, no, non c'è nessuna delusione, ci mancherebbe altro. Sto scherzando, tanto lavoro non ce l'ha, la mangiare non ce l'ha. L'ho telefonato all'ingegnere, poi te l'ho detto l'altro giorno, il giorno dopo. No, e cosa ti ha detto? No, ti dico così, che il discorso delle domande, che io avevo fatto 18 domande giuste e 5 sbagliate. Come io non me lo ricordo quante ne ho fatte giuste, io 18 erano giuste come te, le altre sbagliate erano più o meno uguali. Tu hai fatto 16,25 e ho fatto 16,75 come punteggio. Però c'era una domanda che io gli ho fatto, ti ricordo che gli avevo detto, guarda che questa domanda è giusta a me, che i conti con la calcolatrice no, mi riquadra, cioè erano quelli i risultati. E tanto non cambia niente, mi ha fatto, ti prendi questa giusta, cioè arriva a 17,75. Poi la sera a casa ci stavo pensando, detto, no, ferma tutto, no, è così, perché io di 18 giuste, con la giornata fa 19 giuste, per cui anziché 5 sbagliate sono 4, 4 per 0,25 fa 1, 19 meno 1 fa 18 punti, non è così? Sì, vabbè, devi fare i conti, e me cosa ti ha detto? L'ho telefonato e ho detto, guarda, ingegnere, a me mi risulta che quella risposta che ho fatto io è giusta, non è sbagliata. E ho detto, guarda, dovrei controllare, dimmi di che risposta stai parlando, vediamo un pochettino, poi ho detto, può capitare a tutti di sbagliare? Ho detto, certo che può capitare. Ha controllato, dopo un paio d'ore l'ho richiamato, ha detto, no, guarda, la risposta è giusta, questa era una domanda trabocchetto, perché qua stiamo parlando di potenza apparente, non potenza dissipata, non potenza apparente. Ah, bravi, guarda che io in genere, dice, questo dice per quello che io dico a fare un esame orale, dice, se avessi fatto un esame orale ti avrei promosso perché ti avrei spiegato la domanda. Purtroppo questa è una domanda a trabocchetto, insieme all'altra dice ne hanno fatto altre due a trabocchetto, infatti quelle due che ho sbagliato erano tutte e due quelle a trabocchetto, perché i conti quadravano, però si parlava di potenza dissipata, non di potenza apparente, ed è rimasto fottito. E poi quella che io non ho capito di domanda, quella delle calorie, ho detto, non riesco a capire dove cavolo, perché quella l'ho aggiunta alla fine, io ne avevo altre due sicuramente giuste, infatti poi ho controllato anche a casa della risposta e non ho risposto. E poi alla fine ho detto, mettiamo quella della caloria, e invece quella caloria era sbagliata. E anche quella della caloria io non l'ho capita, cioè quella lì non l'ho capita, secondo me tu l'hai capita. Guarda, il discorso, l'unità di misura del lavoro è lo joule, culo al 100% perché l'ho studiato, però il lavoro può essere anche trasformato in calore, per cui quel discorso della caloria per certi punti di vista può essere giusta, come il kilowattora è un'unità di misura dell'energia, però poi c'è un'altra risposta, che non mi ricordo, ma c'era scritto poi, l'altra risposta. No, perché uno era il kilowattora e l'altro era il kilowatt. No, il kilowattora e l'altro era il watt, mi sembra, quindi un sottomultiplo. No, ma il watt è l'unità di misura della potenza, che la potenza è anche energia, non è considerata energia, infatti non riesco a capire qual era la risposta esatta, come non ho capito ancora la risposta del fatto del, come si chiama, di una semplice antenna Marconi, che tutti quanti dicono, almeno quelli hanno capito, no, l'antenna Marconi è semplice di polo, tu cosa hai risposto a quella domanda? Io ho risposto quella del centro, che non era né nella torre, era una cosa sopraelevata, eccetera, che tu hai interpretato come una gran plena. Quell'antenna di un quarto d'onda con un piano di massa fittizio, una cosa del genere. Infatti io quella ho detto, no, quella sicuramente non è detto, perché non credo che sia un quarto d'onda l'antenna marconiana, almeno quella che utilizzava Marchione. La conoscevo come un traliccio con dei tiranti e cose del genere, poi ho detto sarà un dipolo, invece niente, quella era sbagliata, ma perché me le ho ricontrollate? Tu non te le ricontrollate le risposte sbagliate? No, non me ne fregava niente, perché non voglio di contestare ancora, perché poi io gli ho contestato un paio, ti dico che se gli faccio un ricorso su un paio gliele contesto, perché c'è una domanda, dice non una può essere più giusta dell'altra, non esiste una può essere più giusta dell'altra, se gli faccio un ricorso io lo vinco, perché la storia dei problemi che può dare la corrente al corpo umano, se tu fai un ricorso non ti preoccupare, su quella domanda per esempio lo vinci, perché la frequenza è una cosa non importante, importantissima, se tu non mi dici che corrente continua, non mi dici che corrente alternata, e tu dici una corrente, e che perché io posso prenderla anche come corrente alternata e quindi diventa non pericolosa, di più è la cosa più pericolosa per il corpo umano, a prescindere dall'intensità di corrente e dalla differenza di potenziale, capito? Quindi quella vorrà ragione, dice no, però mi ha detto ce n'è una più giusta dell'altra, capito? Sì, ma deve essere specificato che tipo di corrente. Sì, sì, ho capito, anche quello, infatti si è discusso anche di quello. Però io dico, una valutazione, cioè tu devi valutare la domanda, la difficoltà della domanda, cioè non mi puoi paragonare il codice Q, cosa vuol dire QSB, oppure nell'alfabeto fonetico cosa vuol dire la lettera C, per dire tu lo sai a memoria, una fesseria, sono quelle le domande, e non c'è da sbagliare, e per dire se la sbaglio, direi che mi devi dare un punteggio basso, negativo, mentre quando ti sbaglio una domanda tipo quella che l'abbiamo fatta io, per dire quell'errore che era potenza dissipata e potenza apparente, quello lì secondo me è uno, un trabocchetto, lì non mi puoi dare la stessa punteggio negativo, secondo me le domande dovrebbero dartene in base alla difficoltà e ai voti. Non so, però purtroppo è così l'esame, guarda, io ma questo è una curiosità, ma la storia dell'antenna qui alla fine, qual era la domanda giusta, quella di Marconi? Non lo so, quella non ho avuto modo di chiederla, perché ho chiesto informazioni di quella risposta che ero convintissimo fosse giusta, quella che ho dato io. Perché tra l'altro poi sono anche una massa di maledetti, perché a quel tipo, a coso, a quell'altro apistrale, se gli ho chiesto, guardi questo conto con la calcolatrice, le ho fatto vedere, ho detto, guardi, verifichi qua, questi decimali sono sbagliati, erano invertite, anziché 665 dovrà essere 655 o 656, se non mi ricordo, erano invertiti, sì sì, questo è probabilmente un errore di stampa. E di ricatto ero sicuro al 100% che era giusto, no? Se non avrebbe potuto dire no, guarda, stai attento, come era capitato altre volte, ti diceva stai attento, non ti diceva era sbagliata o giusta, stai attento, ma ci ragioni diversamente. Come quell'ultima domanda, quella delle chilocalorie, quella cosa lì, io no, l'avevo letta come quale di questi coso è il coso dell'energia, invece quali di questi simboli non è dell'energia, avevo interpretato male, molte volte ti viene anche non so, a pensare a una domanda a interpretarla diversamente. E quella lì, infatti, se avessi saputo non avrei neanche risposta, perché quello lì ero convintissimo che la caloria non c'entrasse proprio niente. Poi magari a mente calda, poi ragionando ci potrebbe anche essere, perché il calore è energia, lo stesso tu generando calore generi dell'energia. Ti fanno queste domande, non contano niente, perché erano gli altri, almeno una quindicina, erano talmente semplici che chiunque secondo me le poteva fare senza grosse cognizioni, però poi ti fanno queste domande strane, così quella dell'abbreviazione 184,58 mi sembra, che come si indica in rapporto, io quella lì lo stesso ero sicurissimo di averla fatta giusta, c'era 158K o 14K58 avevo messo, sicurissimo, no, questo è, non nella legge del coso delle cifre significative non si fa così, lo stesso questa è una domanda tra bocchetta, ma vattene a cagare. Sì, anche quello che avevo scritto era 180, poi era 180 appunto, alla fine anche io quella avevo capito, la tra bocchetta si hanno fottuto, però diciamo che la colpa è stata anche nostra, perché noi cacchio, vabbè, io non sapevo nemmeno che tu dovevi scendere, perché se ci fossimo messi vicino saremmo passati gli unici due che saremmo passati, perché? Perché, scusa, aspetta, abbassa la televisione, Andrea, abbassa un po' la televisione, perché? Perché praticamente, non so se hai notato, lì erano tutti in gruppi di due, tre persone, quattro persone, si conoscevano tutti, erano fatto alla fine i compiti in comunella, e non sono passati, perché se ci fossimo messi noi vicino, guarda, ci bastava che ti dicessi due domande e tu quelle di Q che hai fatto, che io quelle proprio le ho mollate perché non sapevo nemmeno a che parte iniziare, e erano tre, quando te ne avrei due o tre tu, bastava due o due tu, ci saremmo consultati leggermente e non avremmo prelicciato, avremmo preso 21 o 22 almeno. Sicuramente, a me mi bastava una risposta esatta, perché con una risposta esatta avrei tolto una di quelle sbagliate, avrei fatto 18 punti esatti, perché ho fatto 18 esatte e 5 sbagliate, se una di quelle sbagliate era compensata con la giusta sarei stato promosso. Purtroppo io ne avevo altre due di risposte giuste, quella del coso di quel grafico, come si chiama, di 180 gradi, invertito di 180, quella era la stessa giusta la risposta, e poi ne avevo l'altra che non mi ricordo, adesso non mi viene in mente, che non ho risposto, ho detto per non tentare, perché una volta passata mi sono puntato a rispondere a tutte le domande, ho detto pure anche quelle che non ero sicuro, e ho sbagliato. Questa volta ho detto sono sicuro che almeno 15 sono al 100%, gli altri me le tento, ce ne avevo due quella trabocchetto che ero sicurissimo, invece mi ha dimostrato che erano sbagliate, e poi gli altri ho detto c'ho 50% di possibilità che siano giuste, ho detto me la tento, invece cacchio è andata male, perché io bastava facessi un'altra domanda giusta e non una sbagliata sarei passato. infatti me l'ha detto anche lui, purtroppo è solo questione di fortuna. Io ero sicuro di passare questa volta, forse posso, e non ti posso dire, non l'ho studiato come le altre volte, le volte l'avevo studiato molto di più, poi ho detto tanto è una questione di canna, ho detto non me ne frega niente studiare, sono andato così con quello che mi immaginavo, purtroppo è andata male. Però se dobbiamo andare, se dovesse ritornarmi la voglia di andare, non bisogna fare come abbiamo fatto un anno la prima volta che sono andato con Salvatore e Natalino, ci siamo messi tutti e tre, appena terminavamo sembravamo le tre dell'Apocalisse, appena siamo arrivati uno, due, tre, uno da una parte, uno dall'altra, bisogna fare in modo come che non ci conosciamo, e poi posso sedere qua, c'è posto, è come che siamo due sconosciuti, hai capito? Sì, vabbè, ma se si entra già è l'onfio, capito? Se si entra già è l'onfio, si vede di più. Bene, se scendiamo la prossima volta, entri, tanto cerchiamo di andare un po' prima, io sono arrivato alle 8, 8 meno 5, 8 e 5, quindi io, e poi tu c'era un posto vicino a te, mi volevo anche sedere, ma non perché, anche per avere conforto, perché tanto quello soffio non chiede all'altro, la prossima volta ci si dia tanto, se siamo in due soli non c'è problema. Entro io, fammi i documenti e poi dopo 10-2 minuti entro io, e ci mettiamo vicino, perché se poi sono stati vicino, guarda, come era il compito, infatti quello non tenere, perché se poi sono stati, ce l'abbiamo giocata male, perché poi sono stati insieme, avremmo unito le forze e non avremmo preso 18, ma io ho visto delle domande che ti ho fatto, che io ho delle domande che ho fatto e saremmo arrivati a 21-22 come punteggio almeno. Sì, sicuramente è così Fabio, bisogna cercare di organizzarsi diversamente. Ma la cosa strana, questa volta sono stati molto fiscali nei controlli, nelle cose. A parte che tutta la gente che c'era, secondo me era una massa di ignoranti, non sapevano niente proprio. C'era quel convintone, cos'era il tecnico, cosa che ha detto tante di quelle fesserie, mamma mia. Quella ragazza almeno è stata in gamba, ha detto, no, io non ho risposto a niente, non sapevo niente. Quel luogo di Pantano, che è la quinta volta che ci viene, lo stesso non sapeva niente. Ma io c'era una fianco a me, gli ho fatto un paio di domande per vedere com'era, ma proprio non sapeva niente, ha detto ma poi non lo so, domani ci siamo confrontati, ho visto che tu eri preparato. Sì, infatti anche quello ha detto, mi dispiace per lei, tecnicamente ha risposto tutto, ha sbagliato le procedure, e poi alla fine io guarda ti dico una cosa, a me dispiace che abbiamo solo ti rispetto, infatti poi quando hanno detto 18 bocciati io ero sceso senza fiducia proprio, quindi ero tranquillo, poi pensandoci sono rimasto male quando ci hanno dato i compiti che ho visto che era fattibilissimo e abbiamo fatto degli errori proprio di inesperienza secondo me, e anche il fatto di non metterci vicino, vabbè, tu dici non ci conoscevamo e va bene, ti sono sentiti solo per radio. A Napoli, casa nonna, tu come le dicevi, i due bambini scemi, che ti senti in radio, io lo sanno da un anno che devo andare a fare l'esame, nessuno, che ti dice mica c'è anche lui che lo deve fare, scendete insieme, e va bene, comunque, è andata così, ma poi era anche semplice, perché se tu hai notato, a me mi hanno fatto usare l'iPhone, io gli ho detto, ad una volta calcolatrice mi ho dimenticato a casa, non ce l'avevo in garage la calcolatrice, perché lì tengo una cartella con, io faccio il giudice di ascolto, dopo dice la mia cartella, la calcolatrice, le mie cose, e non avevo voglia di credere, vabbè, quattro calcoli me li calcolo a mano, non ho voglia di scendere, poi ho visto tutti con la calcolatrice, gli ho detto, scusate, ma posso usare la calcolatrice del telefonino? Sì, ma guarda, non c'è, per non evitare, no, ritengo la scheda, l'ho messo, tolto la scheda e l'ho messa lì, quindi teoricamente se uno è furbo, metto un'altra scheda, io lì c'ho anche dei programmi di particolare, uno si carica un po' di come formate PDF e c'ha tutto praticamente, cioè se ti lo facciamo fare, se io volevo fare il furbo lì e lo sapevo prima, cioè io avevo visto che con il telefonino stavo con la calcolatrice calcolando, ma lì facevo fare quel cavolo che volevo, capito? Avevo anche un programma che non ho usato, che non mi serviva, dove ti puoi calcolare le cattanze, calcolare i calcoli, controcombe di cose, che di quelle domande non c'erano, quindi teoricamente potevi anche utilizzare con questi programmi strani, capito? Gabriele, vuoi sapere una cosa? Questa per l'ennesima volta ho capito una cosa, dove prendono le domande, perché io adesso me le sono riguardate le domande, me le sono, dalle tre sessioni che ho fatto, me sono tutte riscritte, adesso mi mancano 3 o 4 domande che mi sto cercando di ricordare. E ho preso quella specie di schemario che ti stavo dicendo degli esami che fanno in Svizzera, le precise identiche domande con gli stessi info, cioè con gli stessi valori, proprio identica, spaccata, lo stesso schemino elettrico, eccetera, preciso identico, di quelle domande che ci hanno fatto, di quelle 30 domande, a parte quelle del codice Q, dell'alfabeto fonetico, quelle sono un altro gruppo di domande, vabbè, quelle non c'è da sbagliare, sono di queste 30, 15 domande sono prese dal libro che dico io, non dal libro, da questo questione, per cui è inutile metterci in testa a studiare, a metterti con quel cacchio di libro di Nerio Neri e tutti gli altri libri che ho studiato, perché ci sono domande, e ci sono belle che pronte le domande, quella del coefficiente, del coso del fattore di qualità, quella domanda lì che non mi ricordavo la formula, come si chiama, ce l'avevo segnata, però la sapevo, a memoria non ero sicuro, allora ci stavo sempre pensando, alla fine non ero sicuro e non ho risposto, che probabilmente l'avevo anche sbagliata quella domanda, perché era 1 fratto R per radice quadrata di L fratto quello per il fattore di parità, la sapevo la forma, però non ero sicuro, ho detto non me la tengo. Anche con la stessa precisa identica domanda, in quel libro che ti sto dicendo io, in questo fascicolone che ci sono 700-800 domande, perché a lui gliel'avevo chiesto tempo fa, all'ingegnere, da dove le toglievano, se c'era una banca là, no, assolutamente, noi le domande le estrapoliamo dal computer di Roma direttamente e ogni tanto le aggiorniamo, abbiamo tolto le valvole che ormai non si usano più, eccetera, eccetera. Invece non è vero, tu fa oraggio, perché ti faccio vedere le domande con lo stesso grafico, precise identiche, cosa era quel libro, se avremo modo di vederci ne parliamo in verticale. Insomma, di questa roba qua, di queste domande, come ce l'hai in formato PDF tu per caso? Le ho scaricate, ce l'ho su dischetto il PDF, oppure se vuoi te le do, se capita, se ci sentiamo te le do, come si chiama? Me le ho stampate. Di quelle le carichi sul telefonino e ce le hai? Dove sto dicendo? Io avevo degli appunti nel portafoglio, mi sono portato, quando sono uscito in bagno sono andato per vedere se c'era quelle domande dubbiose, purtroppo non me le ho messe tutte, ne ho messo qualcuna di quelle che non sapevo la soluzione e purtroppo di quelle non è capitata neanche una, perché sono delle domande tipo quella trabocchetto del fattore del rendimento, l'hai vista quella che ho sbagliato, quella del rendimento tu l'hai risposta? Ricordamela, mi sembra di sì, quale rendimento? Quello del trasmettitore che ha una potenza di 500 watt e consuma, cioè una potenza dissipata a 500 watt e riuscita a 300 watt, dovevi fare 300 diviso 500, una cosa del genere. Io avevo rimesso il rendimento 84%, invece lui mi ha detto no, questa è una domanda trabocchetto, perché la formula è quella, non c'era sbagliare, la sapevo benissimo. No, questa stiamo parlando di potenza dissipata, non di potenza apparente, ma guarda, cioè ti mettono anche domande così, infatti ne hanno messo due sulla potenza apparente e una sulla potenza, cioè una sulla potenza dissipata e una potenza apparente, perché la formula lo sapevo ed era giusta e corrispondeva all'84%, invece no, è la potenza dissipata, avevo calcolato la potenza effettiva e poi in base alla potenza effettiva facevi il calcolo del rendimento. Sì, ma quello se non me lo ricordo se l'ho risposto, cioè, ma l'ho letto una marea di volte e ci stavo pensando perché avevo capito che c'era qualcosa di strano, forse non l'ho risposta, non lo so, o forse poi alla fine ho anche risposto, non me lo ricordo, però io la prossima volta se scendiamo facciamo così, la prima mezz'ora, tre quarti d'ora, ognuno per i fatti suoi si risponde, anche se sono 10 le domande, le domande che sei sicuro anche di più, di quelle che sei proprio sicuro, quelle stupide, no? Poi ci si consulta e dice qual è il risposto, quali sono quelle sicure, magari io ne ho due sicure che ho risposto e tu non rispondi e ce le scambiamo, e poi le altre ce le consultiamo, e magari se sei sicuro di aver fatto un punteggio finisci così, ma se invece ti danno la possibilità come questa volta di usare il telefonino come calcolatrice, a quel punto se io che non mi piacciono le cose, io lo dico sinceramente, però se ero poco furbo, ti avrei inserito la scheda dentro, avrei navigato, tri, avrei tirato fuori più qualsiasi tipo di domanda, ecco, tanto c'hai internet a portata di mano, con l'iPhone, potevi volendo caricarti tutto quanto, io sono Super Galaxy, come si chiama, quindi voglio dire, ecco, cioè puoi fare tutto di più un computer, capito? Quindi è come avere l'iPad, però ce l'hai con una scheda da 4 pollici e qualcosa, quindi cioè volendo si poteva fare, ecco, Sì, ma senza arrivare a quel punto. Io ritornando oggi, con le domande, essendo vicini di noi, rifacendoci le stesse domande, saremmo usciti di brutto, non ci credi tu. Perché cacchio, mi dispiace che due domande non le ho risposte, proprio perché non me la sentivo, perché la volta precedente avevo risposto a quasi tutte, su 30 ne avevo risposto a 28. Ho detto no, col calcolo delle probabilità ho fatto un giro di conti. Io, se tu hai notato, io sono stato l'ultimo che se n'è andato, non so se te ne sei accorto. Sì, sicuramente c'è stato l'ultimo, però anche quello lì, secondo me, io anche io me ne sono andato abbastanza presto, infatti se tu noti la prima mezz'ora, la prima ora c'è più controllo, dopo iniziano tutti a sbagarsi, anche la commissione se ne fa poi, vai, se l'ho fatto. Allora, c'è un metodo, non l'ho fatto io, l'ho letto, io sono un manualetto piccolino, ci sono per fare questi così test di esame con tutti i calcoli statistici, probabilità. Allora, tu non devi scrivere niente. Io ho visto la fotocopia che ti ha dato quella brutta per scrivere. Sì. Allora tu prendi tutte le domande, scrivi 1, 2, 3, 4, sino a 30 e poi inizi. Allora la domanda numero 1 ci scrivi A, per dire la giusta è la numero A, la 2, la C, eccetera, eccetera, fino ad arrivare all'ultima. Poi inizi. Di queste 30 domande, quante sono sicure al 100%? Ci fai una croce, un rotondo, quello che vuoi per ricordare. E inizi a estrapolare tutta la situazione. Allora, ci sono 15 domande giuste, io ero sicuro di averne fatto 18 giuste, comunque, tieni presente. Anche 18-19 ero sicurissimo, purtroppo quelle due che strane, quelle a trabocchetto mi hanno fregato, perché sennò io ero sicuro di essere promosso. Appena ho visto le domande ho detto questa volta passo, perché quelle due domande a trabocchetto ero sicurissimo che erano, purtroppo mi ha fottuto, proprio quelle due mi hanno fatto perdere, perché sennò se ne bastava una sola di quelle che ho sbagliato ti ho detto è passato, perché compensava quelle sbagliate quella giusta. Inizi così e calcoli, io ho fatto i cerchietti, allora di queste, infatti non ho scritto niente sino agli ultimi 5 minuti, alla fine il tipo mi ha detto ma come non ha scritto niente, ho detto no, io ce l'ho scritto nella brutta, e stavo a fare i conti, allora ho detto questa è giusta, questa è sbagliata, cioè sbagliata, questa è dubbia al 50%, ho fatto il calcolo e probabilità, io ho detto se ne ho 20 giuste, ho fatto i conti, ho detto queste qui sono dubbiose, per cui anche se sono sbagliate, perché ne avevo altre due da rispondere, giuste, che poi alla fine erano giuste, non mi sono fidato, ho detto col calcolo e probabilità sono passato. Invece quelle due che ero sicuro al 100% mi hanno sballato la media, se no avrei risposto ad altre due domande, perché quelle due mi hanno detto no, queste sono altre bocchette, ma vai ammazza. Io lo stesso, ecco, ma tu considera che ho sbagliato delle domande insbagliabili, proprio perché non se ne considera che ho sbagliato quella che invece di 5 minuti doveva rimanere ogni 10 minuti, il nominativo, ma guarda che stupidaggine, invece di QRB ho scritto QRY, ma perché? Perché ero sicuro che era QRB, però siccome l'altro giorno in un'altra frequenza mi hanno dato un contromento QRB, ho detto perché metto QRB questo scemo? E quindi stavo pensando in questo QSO che ho fatto, dicevo, ma perché metto QRB? QRB vuol dire quello che dice qua, boh, allora sarà sicuramente questo, perché quello lì ha sbagliato lo stesso in radio, capito? Io ho fatto questo QSO, ho sentito questo scemo, mi ha detto QRB per un'altra cosa, ma mi ha fatto confondere le idee. E poi un'altra stronzata che ho messo la messa a terra, che lì era una stronzata, la messa a terra io ho messo, lo potevo mettere sul telaio, invece con le nuove normative non è così, però ci sono apparecchi tipo questo qua, ed è così è fatta, capito? Sono gli apparecchi, sono tutti così, quindi quando mi si girano male, dovrà dire con le nuove normative non si può più fare, e ho le domande strane, capito? E quindi io ho fatto due o tre domande, ecco, che era impossibile sbagliare, capito? Eppure le ho sbagliate e me l'ho giocata lì, capito? Infatti mi dispiace per quello, allora il QSB non QRB, QRB non c'entra niente, il QSB era quello, i tuoi segnali fluttuano, cioè come si chiama, cioè c'è un cambiamento di intensità di segnale. Quella lì è una domanda facile, tanto il codice Q è inutile studiarti tutti e 40, io ho letto la normativa dove ci sono quelli che effettivamente ti interrogano e sono, mi sembrano 10 o 12, tipo l'abbreviazione internazionale, c'è da dire, quello R che vuol dire ricevuto, colui l'hanno messo nell'esame precedente, nella sessione dell'esame precedente, quella domanda lì, quello del polo neutro, quella lì l'hanno messa nella prima sessione, due sessioni fa, stanno ripetendo anche le stesse domande, per cui non mi ha fottuto. Perché io lo stesso, la prima sessione d'esame avevo messo che il polonetro neutro si poteva mettere nel telaio dell'apparecchio, è assolutamente vietato, cioè non te lo permette, perché non stiamo parlando di massa, stiamo parlando di neutro, sono due cose diverse, non confondiamo, te lo sto dicendo perché avevo sbagliato anche io per la domanda. Idem il giallo e il verde, qualcuno, qual è il polo cosmo di massa del coso era il giallo e il verde, qualcuno l'ha sbagliato anche quello lì. Ha messo il nero qualcuno, perché è abituato a negativo e positivo. No, quella domanda era la domanda più facile di tutte. Su tre figli, il giallo e il nero, che cos'è? Cioè, capo, la domanda, ma tu cos'è? Che su quella domanda, era talmente semplice, capo, il classico filo di corrente, no, del filo, del filo delle, di qualsiasi apparecchio, no, del ferro da stiro, di che colore la terra, guarda, è impossibile sbagliare. Ma tu ci credi che quando sono arrivato l'ho mollata, questa non la so, vado avanti, chissà cos'è. Due volte l'ho mollata, poi ci sono tornato sopra, poi ci stavo pensando. Ancora vicino gli ho detto, ma questa? E mi ha detto, ma poi l'ha presa, vaffanculo, e poi non lo vado a fare. Cioè tu, chissà che cazzo, era talmente semplice, che chissà, io stavo pensando a qualche cosa particolare, cioè, ma come fanno a farti una domanda del genere? Sei anche un bambino scemo, la sua, ma era talmente semplice, che l'ho letta due volte, perché io prima che l'ho fatto, ho letto velocemente, ho scritto tutte quelle che mettevo giù, e poi ci sono ripassato con più calma due o tre volte, al secondo passaggio l'ho veramente spartato, e ho letto, la vedo dopo, e poi quando sono arrivato me l'ho letta, e mi ho guardato, ma questa, quel filo, è proprio più a fanculo, cioè tu immaginati come mi stavo per un po' a vado a sbagliare, c'è una domanda più facile del testo, ma perché? Perché era talmente semplice, come era messa, che anche da stupidi, cioè, quella era proprio semplice, ma potrebbe comunque anche portarti di quanto è semplice, ti porta a sbagliare, ti dice non è possibile una cosa del genere, una domanda del genere, no? Sì, infatti sono maledetti pure per me, perché quello due poli di segno uguale, identico, cosa fanno? Quella è una domanda che ti può far pensare, qualunque bambino prende due calamite, le attacca e se le spingono, non è così. Purtroppo te l'avevo importata, sembrava, perché questo è talmente facile. Adesso non sarà... Ma c'è tutto. No, mi è scappato il segnale, no, faccio la porta fuori. Vogliato mia figlia si è avvicinata a qualcosa, niente importante. Capito, no, ma anche io quella lì quando l'ho letta ero sicuro immediatamente ho risposto, dopo che ho risposto, come meno male direi che puoi correggerla una domanda, perché è troppo semplice, ma ho letto, no, ma già la cosa. E lui invece lo sarei dicendo che il comitato aveva il dubbio, come una domanda tra bocchetto, sai, quello delle calamite, cioè come le calamite dei poli, che poli che non li ha chiamati maledizione, poli dello stesso segno, li ha chiamati poli. Non so come li ha chiamati comunque poli negativi o poli negativi positivi, li ha chiamati con qualche altro gergo, infatti non vorrei che questa è una domanda tra bocchetto. Sì, già lo so, te ne importano anche in questo modo qua, per me sono maledetti per quello, che poi domande tranquille, senza... Cioè, io non capisco questo fatto del trabocchetto, io a lui glielo ho detto all'ingegnere, io faccio tutto altro lavoro, gli ho detto, io sono un appassionato di telecomunicazioni, però... Non posso avere delle condizioni così ampie, qua stiamo parlando a livello di ingegnere elettronico, gli ho detto, come pretendete che voi, un radioamatore, abbia queste condizioni? Ma deve essere un tecnico, detto, non più un appassionato. Piano piano poi l'esperienza tra l'altro, e ti posso non per vantarmi, non per dire niente, un po' di esperienza sulle radio telecomunicazioni ce l'ho perché leggo, mi informo eccetera eccetera, però non basta niente perché di lì ho visto che è solo questione di fortuna, se sei fortunato, e questa volta come sembrava, ma che fossi fortunato, perché ho detto qua rispondo a tutto, per almeno 20 domande, invece purtroppo te le importano di merda, cacchio, sono una massa di maledetti. Lo so, sì, lo so, ma infatti io comunque rimango del parere che un po' ti fa pensare con quei 18, su 18, 18 bocciati, un po', andrei a casa un po' ti fa pensare su 18, 18 bocciati, quello ti lascia aperto, però poi quando non ho visto, quando eravamo fuori tutti stavano parlando, tanto chi diceva una cosa, chi diceva un'altra, avevano meglio l'80% della gente stava dicendo solo stronzate, perché poi bisogna essere abbastanza obiettivi, il compito non era così difficile sì, c'erano tutte queste domande tra bocchetto che un po' ti incasinava, c'erano delle domande anche un po' particolari, però poi alla fine nel complesso non era così difficile, anche perché di sentirvi tutti parlare, no? Mi guardo perché quello, quello, cazzo, dice, tu mi chiamo, questa gente ne sa un bel, perché mi dice così, e loro convinto che promuovevano un bel, no? E con questo questi ne sanno un bel, convinto quanto ne sanno. E invece poi alla fine ecco, quelli che siamo andati meglio sono stati io e te. Io credo una mazza di ignorante, compreso quell'ingegnere che non ha capito di che cazzo di ingegnere era. La cosa che c'era un fantastico, quello magari ti ha letto qualche libro, scuola radioelettrica, eccetera, eccetera, guarda, facciamo per. Io ti posso dire, le altre volte c'era qualche domanda proprio non sapevo la risposta. Questa qua, almeno tutte le domande che hanno presentato, più o meno le risposte le sapevo tutte. C'erano un paio dubbiose, che non ho risposto neanche, ce le ho lasciate perdere. Una era la prima, quella del discorso di quell'antenna aperta, un dipolo aperto di un quarto d'onda, dove dire c'era come era l'impedenza, c'era capacitativa, induttiva, nulla o infinita. Lì dicevo avevo la risposta, però non mi sono fidato. E poi ce n'era un'altra, lo stesso così l'ho lasciata perdere. Però tutte le altre le sapevo, più o meno le risposte. A parte quella trabocchetto che, pensandoci dopo, di casa ci avevano ragione, ho sbagliato perché l'ho impostata diversamente la domanda. Sì, ma infatti comunque alla fine anche io quella lì non ho risposta, quella proprio era quella del dipolo aperto lì con l'impedenza 50, 70, era 50, mi sembra 50, 75, e un capo, anche quella lì non la sapevo proprio rispondere, era una domanda che proprio non zero, quindi ho preferito non rispondere. Poi meno male tutte le altre erano abbastanza, escluso quello dei fattori come li chiamavano, fattori Q di precisione, quello lì io nemmeno una ne sapevo, erano quelle che erano tre domande circa, proprio era un argomento che io non mi era mai capitato in mano. Comunque il resto comunque era sta roba fattibile, l'unica, infatti vedi che non ho guardato, poi più tardi mi accendo il computer e voglio vedermi la storia di Marconi, di quella dell'antenna Marconi, per vedere se ho risposto giusto o ho risposto sbagliato, perché lì nessuno ha, erano tutti quanti, ognuno diceva le sue stronzate. Guarda, secondo me a questo punto la risposta tua, probabilmente quella che hai dato tu era quella giusta, anche se poi pensandoci, vedendola come è fatta, dico io la vedevo sempre nelle fotografie dell'antenna Marconi, che era un traliccio lungo lungo sottile, quasi che sia anche quella, perché l'hai visto i tralicci, quelli che trasmetteva Marconi erano lunghissimi, altissimi e sottili, però sembrava una risposta troppo facile, alla fine l'ho lasciata per. Mi sono fidato di quello che ha detto, no, la Marconi è il semplice dipolo a mezz'onda, e te mettiamo quello. Se no non avrei risposto, io non avevo risposto, alla fine l'ho aggiunta proprio l'ultima domanda che ho risposto è quella. Sì, ma la maggior parte non capivano niente, esatto. Poi un'altra, quella poi che poi era giusta, un po' un dubbio, era quello che parlava di un trasmettitore, sì, che aveva una frequenza di 14,550, mi sembra, qualcosa del genere, con la frequenza di che rigenerava una frequenza, mi sembra, fantasma, di 15 e cosa, in AM voleva sapere la frequenza e l'ampiezza, quella per esempio l'ho fatta giusta, quella l'ho fatta giusta, avevo un piccolo video, ho fatto un paio di cose e è uscita, infatti quello l'ho voluta guardare per curiosità, quella è uscita giusta, non so se ce l'hai presente. Quella lì è quella che ero telefonato, che ero convinto che avessi fatto giusta, però ecco, la frequenza immagine in AM due volte, bisogna ridurla a metà, perché a me i conti mi davano giusti, tutti e due i valori, purtroppo quella che avevo fatto vedere a col Pizzalis, invece mi ha detto, no, con il rapporto vuole diviso per due, tra la frequenza immagine, quello se era in AM, trasmettitore o cosa, o in SSB, vuole diviso per due, e quella era una domanda tra bocchetto, e poi tu l'hai risposta a quella domanda, la tolleranza e frequenza di 8 parti per milione, quello ti ricordi, 8 per 10 alla meno 6, la risposta, quella lo stesso l'ho fatta giusta. Sì, anche quella l'ho risposta, quella lo stesso l'ho fatta giusta, anche quella l'ho risposta. Ma io ora, la parte tecnica alla fine l'ho quasi già risposta. Per quello ti sto dicendo, che se, infatti visto lui quando è entrato, che mi ha detto, si è rivolto, ha detto mi dispiace per lei signor Murtiani, perché io ero convinto che c'era con quell'altra, però con lei, perché la parte tecnica la fatta giusta, lei ha sbagliato sulle normative, quindi secondo me io l'antenna di Marconi, cioè, se lei proprio riesce a peccata, infatti guarda, dopo adesso non voglio adesso che i bambini qua, dopo quando sono più tranquillo, che c'è un po' più di gente in ruota, che tengo il microfono appoggiato sul divano, mi metto il computer e la voglio cercare, perché ma per cui voglio cercare una domanda e probabilmente la troviamo quella domanda. Adesso mi è venuto il dubbio, sono stato stupido a non guardarla, perché io le domande non le ho nemmeno controllate, quelle giuste e sbagliate, quindi veloce veloce non le ho nemmeno voglia, capito? No, io le ho guardate, ma le ho fatto guardare la foto, ho detto no, mi voglio togliere il dubbio per vedere quello che ho sbagliato, perché io l'unico dubbio ce l'avevo su quella, aspetta, non ricordo neanche la risposta, su una, l'unico dubbio, gli altri ero talmente sicuro, ho detto no, perché non le ho risposte agli altri due, ho detto, quelle le altre dubbiose, non le ho risposte, ho detto quella delle calorie, ho detto cacchio, questa è sicura, cioè, ho detto non posso neanche cercare, era quella di quella sballata, perché io tutte le ho prese tutte di fila. Le domande, le prime 18 le ho fatte tutte giuste, se me l'ha fatta apposta, ho risposto alle prime 18 domande giuste, le ultime 5 sbagliate, comprese quelle che ho saltato che non ho risposto, se me l'ha fatta apposta, se non avessi risposto a quelle lì, bastava non risponderne neanche una di quelle, solo che non lo sapevi, perché ero sicuro che erano giuste io. Adesso vabbè, vai, è andata così, va a Napoli, adesso vediamo un attimino, anche perché mi dispiace, ma non per altro, guarda, io non avevo nessuna speranza di passare, e c'è venuto poi quando avete tutti bocciati, ero anche quasi contento perché c'era una massa di gente lì che era, diciamo, che era convinta. Però poi si era fatto quando ho visto il compito che hanno 18 e poi siamo tornati indietro con quelle sbagliate, un po' mi ha dato le balle perché poi voltando da guardare ho sbagliato proprio domande che anche non avrei sbagliato alla fine nemmeno giocandoci sui testini faccia a casa, quindi un po' mi è rimasta qua solo per quel motivo, che infatti avrei preferito che non ci facevano vedere tutto e dicevano solo 18 bocciati, sarei stato più contento. Ma poi ho visto anche quel carabiniere, cazzo, quello con la quello che è arrivato con questa BMW vecchia. Odiatevi le normative. Qual è il carabiniere? Non ho capito. Quello che è arrivato, quello era carabiniere, quello che è arrivato con quel cazzo di macchina, forse tu eri ancora dentro, cazzo, quello scemo, cazzo, un carabiniere, mica voglio vedere quanto era scemo, questo carabiniere scemo. Ha fatto l'esame? Veglia. Descrivimelo chi era, non ho capito, ma quello senza capelli? Sì, poco capelli, io stavo sempre parlando, cazzo, io qui, lì che sta parlando, ma voi lo sapete quante antenne messe così, che rifletto, qui sono asini, questi qua dell'aria, hanno messo un'antenna così, l'hanno cambiata, guarda, ha fatto venire il segnale così, mica, cazzo, di quelli che non si fa, io mi ho guardato, ma che sei scemo, cazzo. E purtroppo c'è la propaganda presuntura, ma qui l'ho più strafottente era quello che era tecnico, ora io sono tecnico, allora perché stai facendo l'esame di radioamatore se sei così bravo? E chi su, me l'hanno ribaldo più di tutti, almeno quel tipo che c'era vicino a me ce n'erano due, l'hanno detto all'inizio, guarda, io sto venendo qua, però lo sapevo, l'avevo visto le domande che no, non erano all'altezza, lo stesso quella ragazza ha detto no, io ne ho sbagliato tantissime, molte non ho risposto, dice ne ho risposto una quindicina, mi ha detto, le altre le ho fatte a casaccio, mi ha detto, almeno quella è stata netta, ma chi tu paria quello che aveva inventato l'elettronica? Posso? Avanti, c'è anche Claudio, avanti. Ciao Fabri, Antoni. Apre, lo devi lasciare, tutto in bianco lo devi lasciare, così glielo sbatti più bene a quell'ingegnere in faccia tutte quelle domande che hanno messo. Break. Registrato, avanti Break. Saluti a tutti quanti, Salvatore, buonasera a tutti. Ciao Salvatore. Ah, devi entrare. Mi lascio il voto in questo. Mi lascio il voto in questo animato e contraddittorio sicuramente per quanto mi riguarda, perché io purtroppo sono contrario e continuo a ribadire sempre che bisogna studiare. Quando uno va deve sapere tutto di più, mai farsi fregare dall'emozione, le normative e legge bisogna sapere a memoria, elettronica è una cosa, le leggi sono un'altra. E farsi capare, caro Roberto, per due nominative sempre, poi sempre, e sottolineo sempre. Ciao Salvatore, ciao Antonio, Fabrizio e Roberto. Vi ascolto, non lo riprendo, intanto sono con tanto che ci avete dicendo, quindi preferisco non mettermi nell'argomento. E vabbè, noi che stiamo dicendo niente, stiamo raccontando come è andato l'esame, e punto. Io vorrei vedere tutte le persone che sono diventate radioamatori, che sono andate lì, se qualcuno aveva qualche calcio in culo, qualcuno gli aveva suggerito qualcosa, oppure qualcuno più fortunato che fatto perché è stato più fortunato, perché magari la sezione era più facile e più difficile, quindi non ogni esame è a sé e via. Io con Roberto non stiamo un po' criticando tutto, anzi stiamo dicendo che era fattibile e ci sono stati degli errori purtroppo che si possono fare, ma ne sento tanti ragionatori che dopo 5-6 volte sono passati, dopo 7 volte, alcuni ancora lo stanno dando e via, quindi no, non c'è nessun problema, dai, avanti Roberto. Condivido al 100%, è anche questione di fortuna, no. È talmente vasto l'argomento, per cui a meno che non sei un tecnico, ma devi essere un tecnico con le contropalle, perché è talmente vasto l'argomento per ricordarti delle formule. Sto dicendo, io le formule ne avevo memorizzato decine, claro. Purtroppo una formula mi mancava, non ero sicuro esattamente, e non ho risposto. Perché in realtà, sto dicendo a lui, ho fatto 18 domande giuste, ed eri promosso con 18 domande giuste. Poi c'avevo le altre dubbiose, me le sono tentate, e quelle dubbiose mi hanno fatto perdere le cose. Mi dispiace per Fabrizio, purtroppo lui ha risposto a quelle di elettronica, le ha risposte tutte, e ha sbagliato le fesse, quelle di QSB, e poi cos'è che ha sbagliato? Quanti minuti bisogna ripetere nominativo? Almeno quelle io, le normative, non almeno c'è a sbagliare. Purtroppo, le normative sono quelle, le studio, una volta che le sai non c'è da sbagliare, però l'elettronica è talmente vasta, Claudio, l'argomento, addirittura si parlava di cifre significative, perché io le ho fatto una risposta sicurissima fosse giusta, 18K80, adesso mi ricordo come voleva, 18,800 come voleva scritto, è scritto questa roba qua, come si scriveva, l'ho scritto sicuramente, ho detto questa è giusta, cioè, purtroppo però no, la cifra significativa in elettronica non si mette in questo tipo, ho detto ma va a cagare, perché in altri tipi di matematica si mette davanti, in elettronica non si mette quel tipo di dicitura, infatti quella ero convinto fosse giusta la domanda, invece era sbagliata, ho detto questa è una domanda trabocchetto, mi ha detto l'ingegnere, come l'altra domanda mi ha detto potenza apparente rispetto a potenza dissipata, e lì mi ha fregato, perché le formule era sicura che era giusta la mia, gli ho anche detto, ho detto sì ma qua stiamo parlando di potenza dissipata, no cazzo, ma tutti due, perché non l'avevo letta bene la domanda. È preferibile che lasciassi una direttorica ma che sapevi neuromattivi a memoria, vabbè, questo è da quando ero attivo al 1993, e tante di quelle persone sono state crepate perché non sapevano neuromattivi, quindi non so cosa dirvi, siamo tutti bravi, però al momento in cui perdiamo la colpa del professore, e io queste cose non le condivido perché sono già passato, pertanto non so cosa dire. Quando uno sbaglia, la colpa di chi sbaglia e basta. Il professore è lì per correggere, se ritiene che tu hai sbagliato, giustamente ti deve bocciare. Quindi, o per una normativa, o per un calcolo non fatto, o perché hai sbagliato un errore di trascrizione, purtroppo non sei idoneo e quindi bisogna riandare. Comunque, continua a ribadire, quando uno qualcosa la vuole e la ottiene, deve avere sempre quella forza di poter rifare tutto da capo. Quindi non faccio altro che augurarvi in bocca al lupo, ritentatela e speriamo sia più facile il compito e abbiate un po' più di culo. Purtroppo in questo caso con i quiz non si gioca, quando sono andato io nel 93 si poteva anche copiare e fare, molte persone l'hanno fatto ed è andata bene. Questa è fortuna, e spero che vi tocchi anche a voi la fortuna, però state molto attenti alle normative, perché con le normative non c'è elettronica che tenga. Salvatore, per il microfono, io vi ascolto, non sono un argomento, è una cosa che io faccio l'animatore e ci tengo a sottolineare, faccio l'animatore, e quindi non voglio entrare in merito a queste discussioni. altrimenti subissero delle anomalie nei confronti della sezione. Salvatore, a te e io le vado in Querici. Delle letture diverse, delle letture differenti dal mio intendimento. Questo ho percepito nel tuo passaggio. Invece ti volevo chiedere una cosa prima di farti andare tranquillamente in Corrix, ma il codice SINPO viene chiesto in sede di esame come normativa? Ciao. Thank you. Riprendi Fabrizio, buonasera a tutti, ripeto. Riprendo io, sì, no, ma volevo precisare una cosa, forse non si è sentito il questo dall'inizio, ma io non l'ho sentito dall'inizio. La prima cosa che ho detto che secondo me il compito non era difficile questa volta e era fattibilissimo, anche se è un po' anomalo che ne danno 18 su 18, però l'anomalia può dipendere sia da chi ha presentato il compito dai partecipanti, quindi ho detto tutto proprio il contrario, che il compito non era difficile, che si poteva fare tranquillamente e che purtroppo io con Roberto ce l'abbiamo giocata male e se ce la facciamo giocata meglio saremmo passati, ma senza dare le colpe a nessuno, anche perché Roberto si ricorderà che quando ci hanno dato i compiti qualcuno ha provato a dire sì, ma qui questi compiti ogni volta io sono stato quello che ha detto a me la io non sono passato e va bene, però mi sembra che sia un compito normalissimo e superabilissimo questo compito, non c'è niente di difficile, certo c'è un po' di difficoltà, ma se no che cavolo di esame, fa la domanda come ci vieteranno, quindi perché siamo sulla stessa linea. Ma penso che Roberto sia più o meno del mio pensiero, riprendila. Sì, certamente, niente da dire. Io l'unica cosa che non condivido di questi esami col test, anche se è la cosa più semplice da fare a livello di risposta, non c'è da sbagliare, per loro è più veloce identificare quelli che sono passati, e il fatto, cioè, che tu mi paragoni una domanda del codice Q, e QSB, quella che hai sbagliato tu, che è una domanda fessa, perché ai fini pratici è una domanda fessa, mi dai una penalità rispetto alla domanda di elettronica, dove magari è più importante, che ti dimostra che tu hai risposto a un argomento abbastanza importante, nel senso sapere una formula matematica di elettronica vuol dire che qualcosa hai studiato, il codice Q sono quattro fesserie, te lo studi a memoria e lo sai, no? Lo può fare anche un bambino dell'asilo, però quando tu fai un calcolo matematico dove c'è un ragionamento eccetera eccetera nello schema elettrico, vuol dire che qualcosina hai studiato, per cui se io sbaglio quella domanda o quella faccio giusta mi devi dare una valutazione diversa, come si fa su certi tipi di test, certi tipi di attività, solo quello io dico. C'è una parentesi, come ha detto Fabrizio, l'esame era abbastanza semplice questa volta, l'unica fregatura che erano delle domande, c'erano due domande a trabocchetto e mi ha confermato l'ingegnere di video, ha detto queste due domande sono a trabocchetto, dovete stare attenti, un po' più attenti, ha detto, le abbiamo messe a trabocchetto. Questo qui è l'unica cosa che posso dire, rifacendo l'esame io, senza aver cambiato di studio niente, cioè andandoci oggi in quell'esame probabilmente avrei risposto diversamente a due domande, ragionando diversamente, solo quello di, però era abbastanza semplice rispetto agli altri e basta, solo quello voglio dire. Poi il discorso, io ho parlato con l'ingegnere, ci siamo sentiti anche per telefono, ha detto lei se avessimo fatto un esame orale l'avremmo passata, perché avremmo discusso sulla come abbiamo discusso per telefono, per una domanda di potenza apparente, per potenza dissipata, gliel'ho chiesto delle spiegazioni, ha detto lei ci ha visto che ha studiato, ha risposto con la formula giusta, però questa era riferita alla potenza dissipata, non alla potenza apparente, per cui se uno magari ti interroga, queste cose tu le spieghi ed è diverse, magari con la domanda ti corregge, purtroppo nel testo ha detto è giusto o sbagliato, non esiste una via di mezzo, per cui noi abbiamo considerato risposta sbagliata, anche se ho capito che lei la risposta per certi versi è giusta, però voleva interpretata diversamente, è solo questo il discorso, perché solo di tutte le domande, Claudio, non per vantarmi, tutte le domande, tutte le 30 domande, a parte quella domanda dell'antenna marconiana che non l'ho letto da nessuna parte, infatti come ha detto Fabrizio dovremmo vedere su internet cosa è, cosa vuol dire e che tipo di antenna è, tutte le altre domande sapevo la risposta, chi più o chi meno, nel senso qualcuna c'è al 100% e qualche altra con meno certezza. Infatti io ho fatto, quando ho risposto alle domande, come ha detto Fabrizio, io ho fatto 18 domande giuste e 5 sbagliate, io ho fatto il calcolo delle probabilità, ho detto, ero convinto di averne fatto 20 giuste, non 18, ho detto, con queste due che sono dubbiose vengono compensate, purtroppo una domanda solo, io avessi fatto risposta alle altre due domande che ero dubbioso, sarei passato, perché ero sicuro di essere passato. questa volta. Fabrizio purtroppo ha fatto quegli errori del coso, del codice Q e dei tempi di ripetizione del nominativo, se no anche lui sarebbe passato. Bastava solo con la domanda, perché abbiamo preso quasi lo stesso punteggio io e lui. E basta, così ho chiuso il discorso. Se qualcuno vuole riprendere, avanti. Va bene. Dimmi. Facciamo una domanda a Fabrizio, visto che l'ho tolto l'esame. Ma voi lo sapete a cosa serve il codice Q per un rematore? Io lo so a cosa serve, ma voglio dire, sono poche cose che dopo, una volta che avevi saputo la patente, prima di entrare mi avrei fatto ascolto e mi avrebbe guardato senza problemi, anche perché te lo posso garantire che 3 mesi fa tu mi potevi fare qualsiasi domanda su quella parte lì e io ti rispondevo. 2 giorni prima di andare all'esame ho ripreso il libro, ho dato una ripassatina, sono arrivato e vabbè, queste non le guardo, tanto sono semplice, e poi sono state quelle che mi hanno tratto in inganno, ma cosa ci vuole? 2 ore e quella parte della normativa me l'avevo mangiata, me l'ho fatta due ore una volta, me l'ho studiata una volta, me l'ho ripetuta, comunque ancora lavoro, e poi me l'ho ripetuta 2 o 3 mesi fa prima di andare in ferie, mia, non lo sbagliavo uno, diceva il mio collega, dimmi questo, tu cioè era un perfetto, dopo 3 mesi non me l'ho riguardato e mi ha tratto l'inganno. Ma io sfido qualsiasi radioamatore, non qualsiasi, ma molti, ti pongo tutti quanti, te lo dico tutti quanti in fila, se non sono quelli 10, 15, 20 che si usano sempre, io sono convinto che, adesso prendo tutte le 40, 50, tanto sono io, te le dico, e sono convinto che qualche piduno si sbagliano, capito? E di questo ne sono convinto. Sì, ma io non sto parlando che tu sei convinto o non sei convinto, o che non sei preparato o sei preparato. Il lavoro amatoriale è una cosa ben diversa da quello che facciamo noi giornalmente il 27. Quando tu hai un dialogo in banda decametrica, in banda amatoriale, con corrispondenti che purtroppo non sono ragazzini e che conoscono il codice Q a memoria e che quindi ti dicono frasi nella quale tu devi condividere il QSO, a quello, se tu sei bravo in elettronica, non gliene frega un cazzo. Hai capito? A quelli l'interesse è che tu sappi dialogare con loro, assieme a loro, e fare questo in una certa maniera. Quindi a questo aggiungo che alla commissione d'esame l'interesse è che tu sappi fare l'ordinatore, che poi sai o non sai elettronica, non me la butti nunca. Ma questa legge da sempre, che un radioamatore entri a far parte dei radioamatori, ecco, uno non ha accettato che fa, inizia a parlare in bande amatoriali, sia in VHF, in UHF che in HF. Se non sa parlare, è meglio che non c'entri. Ma te lo dico per esperienza, è meglio che non c'entri. Io prima di prendermi la patente ho fatto 20 anni di pirata, hai capito? Cioè ho fatto 20 anni di pirata, ma pirata che entravo e parlavo con loro, con nominativi di altre persone, che non me la puttia nunca, ma proprio per cercare di capire, di sapere, di vedere tutto ciò che succedeva nell'ambito amatoriale. E questo è importante, ma ve lo sottolineo, è importantissimo. E te lo dico con molta sincerità, quando si davano gli esami negli anni miei, negli anni dal 93 in poi, che noi andavamo sempre ad accompagnare altri candidati, tutti, la metà, venivano craccati perché non sapevano le normative, capito? Le normative. Perché se uno ti chiede una troncata e tu non sai rispondere, è una figura di merda. La prima cosa è che se tu vuoi andare a sentire, ma sentire in mano amatoriale, non in 45 metri o in 85 metri, lì sono gli imbecilli, parlano gli zingari, quelli radioamatori, patentati, che non hanno dialogo e che non hanno mai imparato un cazzo, niente, zero. Tu prova a 7075, a 7130, dove ci sono persone preparatissime che fanno QSO lineari, corretti, e veramente da fatene scendere la pappa. Prova, tu mi dici, parlo di ragione. Capito? Se tu entri lì e non sai dialogare con loro, quali figure ci fai? Io sono un accaventato, buonasera a tutti, sono ISZ 0 Trunella, 59. Poi se te ne vengo 9 più 5. Hai capito? Mari ha preso la Bibbia, il 20, e mi hanno detto, ma dove hai preso la patente tu, in Sardegna, all'hotel Porto Cervo? Hai capito? Ho capito, ma ormai non è più così l'esame, tu puoi rispondere, che ne so, su 30 domande non rispondi 24, 23, 24 giuste e tutto quello delle normative le sbagli e facci lo stesso, non è vero che quelle delle normative sono più importanti e quelle non ne ha fatto niente, tutte valgono un punto, se rispondi un punto, se sbagli 0,25, a prescindere che sono normative che sono di uno o dell'altro, quindi non vuol dire più niente. Non c'è poi una domanda, un punto, punto. Ci sono 5 domande di normativa, le sbagli tutte e 5, fai giuste tutte le altre e sei passato, quindi non vuol dire niente. Però quella è una cosa normale, a prescindere che passi per fortuna o passi perché sei veramente preparato, poi quella lì è una questione di ogni persona che prima di entrare a chiacchierare si fa un po' di ascolto, me l'ascolto, mi ho fatto decine e decine e decine di ore, soprattutto in 40 metri l'ascolto, perché mi piace di più, eppure non mi sembra una cosa così complicata a poterci dialogare. Con tutte le ore che ho ascoltato ho visto come funziona, ovviamente uno quando entra ascolta un po' meglio, entra, si scrive due cose, vede un attimino e si allena, ovviamente se si rende conto che gli manca qualche cosa, prendersi la legge, se la studia un paio d'orette, passarsi la legge, se la legge si fa un appunto su una pagina sul computer, le cose che gli possono servire nell'immediatezza, su quello che vuole dire, e va veramente qui non credo che ci sia, che ci voglia chissà che cosa per poter operare in 40 metri, soprattutto uno che è appassionato di radio, se ascolto ne ho fatto come ne abbiamo fatto tutti, quindi abbiamo sentito dialogarli decine e decine di volte e non mi sembra che sia una cosa così difficoltosa. È ovvio che qui si può sempre sbagliare, è ovvio che quando uno entra per la prima volta a chiacchierare sarà un attimino più emozionato, la seconda un po' di meno, si va a fare, diventa una cosa normale, no? È come, adesso non posso dire che c'è mio figlio qua, però voglio dire, alla fine comunque non c'è nessun problema, sinceramente a me non me ne ha fatti nulla per il momento, quando sarà se ne ho voglia, se proseguirò qua a giocare con la radio che mi piace ancora, per il momento sì, e mi ripresenterò alla prossima sezione, capito? Sicuramente mi ripresento, ma se ancora c'è una passione che credo di sì, dai, mi ripresenterò, ma senza nessun problema. Dai, comunque stiamo monopolizzando, Salvatore, prendi tu e fai girare. Sera signori. Ciao, lì da Porto Torres. Ciao Sandro, ben sentito, ben risentito. Sì, no, ascoltavo con interesse comunque la chiacchierata, perché io mi sono fatto l'idea che sono due aspetti della patente e che uno completa l'altro, perché uno, quello prettamente tecnico, mi sono convinto che comunque è la sua essenza della materia tecnica. L'altro però è proprio quello quando tu hai acquisito la tecnica, la messa in pratica invece è secondo un protocollo che è un protocollo accettato e sottoscritto a livello internazionale, che a Malagana devi seguire. Quindi questo è il succo del discorso, ed ecco perché è altrettanto importante quanto la parte della natura tecnica. Sandro, buonasera, ti rilancio. Ok, grazie Salvatore, buonasera a tutti circolarmente. Ok, niente, stavo ascoltando un attimino il discorso diciamo che avevate in atto, ma in base, tornando al discorso, che possa essere paranoico o meno, io vorrei sapere una cosa, e sono convinto che in Italia i radioamatori che sappiano usare il CW, secondo me sono ben pochi. e secondo me il CV doppio in pelle rematore penso che sia la fase principale. Chi è che mi sa rispondere? Ti rispondo io, non è così, proprio, anzi non è proprio la base principale, non è più niente il CV doppio, la base principale forse era 10 anni fa, siccome adesso il CV doppio non viene più utilizzato, nemmeno all'esame non viene più chiesto niente, non è obbligatorio, non c'è più richiesto, quindi per prendere la patente non c'è bisogno di conoscere, diciamo, la lingua del CV doppio, anche perché a livello militare ormai è una tecnologia che è stata dismessa e non viene più utilizzata, quindi di conseguenza anche per prendere la patente di radioamatore non viene più chiesto il CV doppio, quindi è una tecnica che sicuramente si sta perdendo, anche se comunque tu vai ad ascoltare c'è molto molto movimento di CV doppio, ovviamente è sempre una tecnica che si può utilizzare, è una bella tecnica per chi piace, a me piace per esempio, anche se non conosco il linguaggio, a me piace, infatti se io un domani dovessi prendere la patente probabilmente inizierei a operare su quelle frequenze e poi con calma per i fatti miei e vorrei impararlo come si deve quel linguaggio per poterlo utilizzare, perché è una bella cosa credo, ma mi appassiona molto il CV doppio, però non è più la base dei radioamatori come era prima era la base dei radioamatori, oggi già non richiedendo però per prendere per conseguire la patente, quindi tutti quei nuovi patentati il CV doppio non lo conoscono e ti posso garantire che anche i vecchi patentati molti hanno passato l'esame giusto quelle cose che servivano quelle, e poi se lo sono dimenticati perché molti non hanno utilizzato, perché è una cosa particolare, deve piacere, e poi se tu vai ascoltare ti renderai conto che comunque traffico di CV doppio ce n'è sempre, perché comunque se non voglio essere ripetitivo, ma è una cosa che a me personalmente piace, riprendi il sangue e fai girare. Ricordo, il CV doppio è la storia del radioamatore ed è stata solo tolta perché hanno unificato le patenti, capito? Ricordatelo, c'è anche nella normativa, spero che la trovi, però ricordati che troverai nella normativa, nella legge mi pare 34 o 36 del Ministero delle Telecomunicazioni, c'è una normativa che parla proprio in che anno sono state unificate le patenti e quando è stato praticamente non tolto, ma la parola esatta, ma c'è una formula del genere del CV doppio, stai attento, è stato tolto dall'esame il CV doppio solo perché ha unificato le patenti, quindi unica patente, non più speciale ordinaria, ma unica patente, tanto è vero che io ero radiotelegrafista, intanto ce l'ho qua avanti a me, sempre collegato, sono stato esonerato dalla patente speciale ordinaria solo perché la radiotelegrafista la vale, altrimenti avrei dovuto dare l'esame anch'io. Vabbè, comunque io non ho detto che non è una cosa che non utilizza, ho detto una cosa che non è più basilare come una volta, prima era basilare per poter operare in HF, adesso non è più basilare, il fatto stesso che non lo richiedo, io per esempio posso tranquillamente prendere la patente e non conoscere quel linguaggio e operare in HF, prima invece ero obbligato a conoscere quel linguaggio, quindi certo che la storia è il pasto, no? Quello non lo mette in dubbio nessuno, quello è storia rimarrà, eccetera, però andrà sempre più verso la storia, perché oggi attacchi un programmino col computer al posto del tasto, utilizzi il computer, per dirti, quindi è una cosa che le tecnologie purtroppo, meno male, le tecnologie vanno avanti e quindi quello rimane come storia, sempre una bella cosa che credo che chi si continua a utilizzare, ma sempre meno di quanto si utilizzava per esempio 20 anni fa. Guarda, mi ha anticipato, lo stavo per dire io, adesso purtroppo dal 2005 sono c'è stata l'unificazione delle patenti, è stato tolto dall'esame, dalla prova d'esame proprio il CV doppio. Hanno capito che esiste il computer, che tu scrivi nel computer la lettera e automaticamente te lo trasforma con il punto e con la linea, ti trasforma qualcosa lì. Ci sono gli apparati addirittura che decifrano col tasto, quando tu trasmetti ti dice nel display, ti indica la nota, cosa, che lettera stai applicando, stai ricevendo, per cui è stato superato dal discorso del computer. Per sempre, diciamo, l'ha fatto la storia del coso, dei radioamatori. Prima i radioamatori, prima di utilizzare la fonia, utilizzavano, come si chiama, il CW. E basta, discorso chiuso. Va bene, è ok, dai. Vabbè, vuol dire che devo aprire io il corso CW, Fabri. Il maresciallo che me l'ha affilato in testa per 3 mesi. Ok, vabbè, comunque lascio. E se vai a Roma di Parchi, in questo momento va a fare il CV doppio, Ocla? Diciamo chi? No, uno si va a Roma di Parchi, so come fa a fare il CV doppio. Sì, ma non ce lo fa. Io adesso sono giusto, vabbè, c'è anche l'altro tasto. Con i tempi un po' indietro, negli anni 80, capito? Negli anni 80. Secondo me, diciamo, CV doppio, diciamo, è una base, se poi l'abbiano tolto perché adesso i motivi li sapranno. Noi siamo esaminati Guglielmo Marco. Siamo delle nuove normative e... Aumenta la velocità di parlante di coso di Sandro. Riprendi qua. Computer grande, c'è una elaborazione sulla telegrafia allucinata. chiama? Scusi signor, già capito Roberto di Scopano. Dica come. Mi sa dire che cosa ha scritto? E già gliel'ha detto. Ma scusi, se non lo sa lui che stava trasmettendo, cosa vuole che lo sappia io? Scusate. Ma che è quello che avevano promosso che toccava sedere a quelle che c'erano a Cagliari? Non me lo aspettavo questa fine. Fatto un calcio in culo, guarda, ha detto, vada fuori e non si presenti mai più qua. Al decimo anno, come l'hanno visto, l'hanno promosso per meriti sportivi, fuori dalle palle. No, ne avevano le palle a Cagliari di vederlo lì perché toccava dietro alle signore, poi sono lamentate con l'ingegnere. Ingegnere, questo bisogno lo dobbiamo promuovere, così a me non ci tocca più. Attenzione che questa persona, non posso fare, si chiama Gianni, non posso fare il cognome. E Roberto mi corregge se sto sbagliando, quando faceva il compito scritto, si addormentava nella sedia, lo so, perché lui lo fa, non mi ho capito chi sta dicendo. Si addormentava nella sedia, lo so, e ora l'ingegner del Miglio, che era il direttore proprio di tutto quello che era il sistema operativo, però sotto di lui c'era l'ingegner Tocco, che era un nanetto, che era 1,50 m, ma di una rottura di balle che non veniva bene a dirla. Si metteva voci. Sei lì, sta disturbando tutti, vai fuori a dormire. E lui ci cattava con questo qua. E se lo curi ancora, non li faceva esame. Per dire, vi ho accennato un gioco di quegli anni, oggi queste cose, come cazzo lo fai? Non li muova più, linguisse. Ma linguisse di base all'autoscontro, non in un ministero delle telecomunicazioni con esami di Stato, perché di esami di Stato si parla, con delle cose allucinanti. E questo, credetemi, che avete fatto voi, perché me l'hanno detto subito, non era difficile come ha detto Fabrizio. Ma hanno continuato a fare quello che hanno voluto, 18 su 18, quindi se è vero che la matematica non è un'opinione per nessuno, no? Per chi ne sa e chi non ne sa, sempre uno più uno fa due. Se è vero che, come hanno già detto tanti anni fa, ci vuole un incremento per quanto riguarda l'attività amatoriale, ma tu sei una persona veramente ha studiato, come ti sta dimostrando di aver fatto, e lo bocci perché non riconosce il cuore P dal cuore O. Ma che cazzo di ingegnere sì? Che torniamo a quello di cui io devo valutare la difficoltà della domanda, non puoi, c'era la lettera C a cosa, anche la lettera X a cosa corrisponde all'alfabeto fonetico, quella che i bambini dell'asilo, e poi la lettera non mi ricordo che cosa, M a che cosa, cioè domande a quei livelli c'erano, proprio ridicole, dico. E poi mi metto una domanda su un circuito di fattore di qualità, frequenza immagine e cose del genere, lì ci vuole proprio devi aver studiato veramente. Io quella domanda l'ho risposta, l'altra convinto di avere la risposta giusta, ha detto no, lei ha sbagliato. Magari se fosse stato l'esame orale gliel'avremmo spiegata meglio, lei sapesse, visto che la sapeva la risposta, però ha confuso potenza apparente con potenza dissipata. Ah, bravi, bravi. La preparano le domande, non arrivano da Roma, la preparano loro. Casomai tu le porti le domande, mi risponda lì ingegnere adesso, lì che è tanto bravo. Ma sa, ma io. E allora perché cosa le fa queste domande? Che le preparano loro lì a computer, tutto un mangia mangia lì dentro. Ma guarda, c'era anche Roberto, no? Io c'era più di una da contestare, una gliel'ho contestata perché era l'ho chiamato e ho detto scusi, questa qua è sbagliata, no, come è sbagliata? Questa volta è sbagliata questa domanda. Opa, può avere letto più risposte, per bene o male si potrebbe dire, no, però una delle tre domande è più giusta dell'altra, no? Cioè, come dice, se dice lei, la domanda era, mi sembra, cos'è che può provocare i danni al corpo umano? Quali tipo di uno diceva la corrente, l'indipendente di potenziale, l'intensità di corrente, la frequenza, ma era specificata male perché tutte e tre potevano che situazioni, una più giusta dell'altra, sì, questo per esempio, questa qua sembrerebbe più giusta, ma questo qualcuno non è specificato, perché dobbiamo dire se la corrente continua o corrente alternata, perché se corrente continua è un conto, se corrente alternata è la frequenza è quella più pericolosa, perché ti vanno i defibrillatori in cuore e muori, anche se a piccole intensità è quello che vuoi, ti sfalda la frequenza. Però le prime cose che a me noi ci hanno spiegato con i corsi che io ho fatto sono le prime cose che mi sono state spiegate sulla corrente. La cosa più pericolosa in assoluto è la frequenza, se in corrente alternata, se in corrente continua, no, allora l'intensità, d'accordo, però non era specificato, quindi potevano essere tutte e tre le domande giuste nella stessa maniera. Io sono convinto che io e Sovaro sono stato anche stupido a non vedermi il merito, perché se gli fai ricorso su quella domanda, però l'hanno giusta, qualsiasi ricorso gli fai, però l'hanno giusta quella domanda, e io sono convinto di questo. Vabbè. Dimmi. Perché quella domanda sul buco di trazione, poi è sbagliata lo stesso la domanda, dice sei obbligato a tenere il buco di trazione? Tu hai risposto sì, come tutti abbiamo risposto sì, invece non è più, c'è una legge, una circolare che dice che non è più obbligatorio, perché adesso esiste la possibilità di memorizzare i dati direttamente dal computer. Quando fai una trasmissione, se c'è degli apparati interfacciabili, quasi tutti nuovi sono interfacciabili con il computer, ti dà automaticamente frequenza di trasmissione, potenza, segnale ricevuto, eccetera, eccetera, trova direttamente nel computer, perché tu non devi trascrivere niente. Cioè allora è tutto, esistono dei programmi specifici. Io non mi sono voluto permettere di niente, però esiste una circolare che non ti obbliga più a registrare tutto sul buco di trazione come si fa sempre, a mano, con carta autocopiativa, eccetera, eccetera. E tu cosa hai scritto? Io ho messo sì che è obbligatorio, però se avessi voluto puntualizzare, avrei detto no, guardi caro ingegnere, che non è più così, come ci sono le leggi che dice disposte, tu devi scrivere no, dice per uscire fuori dalle frequenze radioamatoriali, la risposta tutti scrivono no, eppure esistono delle leggi in caso di necessità dove ci sono dei problemi di trasmissione su altre frequenze, di uscire, di trasmettere su frequenze non predisposte per le bande radioamatoriali. Ci sono proprio delle sentenze, delle leggi in cui situazioni di terremoti e cose del genere, che tu puoi utilizzare anche le frequenze fuori dall'ambito radioamatoriale. Però se tu metti così nella risposta, scrivi sì, che è possibile trasmettere, ti bocciano perché è sbagliata. E io li faccio, infatti, purtroppo ci sono troppe cose opinabili di lì in quelle domande. Ma allora, ascolta, bisognerebbe fare una cosa, la prossima volta portarsi un orologio, faccia le fotografie, cioè le prima. Fai la fotografia a tutte le domande, che non se ne dovrebbe accorgere nessuno quando fai quel lavoro lì, no? E poi una volta che hai compilato tutta la roba, le fai di nuovo le fotografie, in modo che poi te le tiri il computer e poi, casomai, se come dicono loro, come dico io. Ah, te l'ho detto che lì è un giro di mafietta, c'è in quell'ufficio. Scusa, se posso? Scusa, ti rispondo. Beh, ti rispondo a una cosa che non è esattamente come stai dicendo tu. Il computer per la legge è una tua cosa personale, ok? Il logo in vitazione, quello che ho io, di carta, che ci manda l'aria ogni anno, è come la patente della macchina, la stessa cosa. Perché a me quando sono venuti qua a farmi un controllo di documenti, e non ti dico quando, non era tanto, non mi vuole facendo al computer se un matto mi faccia vedere i collegamenti fatti tal giorno, no, ma ho chiesto ce l'ho a far vedere il logo di stazione, e fortunatamente io non sono molto pignolo, perché non è che ci parlo molto in HF, parlo molto più in V e in U, era aggiornato, perché se non fosse stato aggiornato il log di stazione, il callbook, lo sai cosa mi avrebbero messo a me? Mi avrebbero ritirato la licenza tranquillamente, non avrei parlato più, non te ne chiedo, ma accendo il computer, no? Perché anche io ho detto, io accendo il computer, e cosa dobbiamo vedere il computer? Ma non c'è il suo governo di stazione, come chiamate voi, ha detto certo ce l'ho, ma se lo prendo, ho preso il logo, gliel'ho fatto vedere, ma che domanda ne accendi il computer, quella è una tua cosa personale, che fai tu, passi cavi, accendi il computer, perché quando stai trasmettendo c'è gente che anziché avere il PTT manuale, c'è la piede, ce l'ho anche io quando l'ho staccato, ma io volendo mi collego il PTT della radio col pedale, capito? Non è un problema. E scrivo, perché devo scrivere, allora si scriveva, adesso invece con la tastiera digiti nominativo e parte in automatico. Madonna, ne frega assolutamente un accidente. Quindi hai fatto bene a rispondere così, che è obbligatorio, perché è ancora obbligatorio la guidistrazione. Ma Flavio, ti ripeto di nuovo, allora è obbligatorio, però esistono delle sentenze, siccome qualcuno si è attaccato a questo fatto qua, cioè gli amatori che hanno apparati di ultima generazione interfacciati al computer con software particolari, che la frequenza anziché farla vedere sul display del coso, l'apparato appare direttamente sul computer con tutti i dati eccetera eccetera, e come si chiama, l'esatto rispetto, tira tutta la banda in quel momento lì, per cui ancora di più del buco di trazione, qualcuno si è appellato a questo fatto qua, hanno fatto dei giudici, sono andati in giudizio e gli hanno dato ragione. Per questo sto dicendo, è uscita una circolare di legge ministeriale recentissima del 2010, sto dicendo che l'ho letta, anche se io ho risposto come stai dicendo tu, e gli hanno dato ragione, ha detto è consentito, non che sia accettato, dice è consentito e accettato, non consentito, è accettato, non consentito, parliamo due cose diverse, è accettato anche quel tipo di cosa, naturalmente devi conservare il dischetto dentro una memoria fisica, non una memoria così che si può cancellare, una memoria scrivi, cioè che non, che la puoi far vedere, no, non un computer, perché se attacchi il computer ti si rompe il computer e perdi tutti i dati, devi averle dentro un dischetto o qualcosa, un floppy, dove li puoi dimostrare che tutti i dati li hai come si chiama, catalogati, per quello che sto dicendo. Posso una cosa? Devo dire, quello che è stato permesso è un vettore differente, ma il vettore differente, in questo caso l'ausilio di un terminale o di un computer, di quello, qualsiasi cosa uno si può inventare, deve portare comunque come conseguenza finale la stampa su un cartaccio di un qualche cosa, che poi uno ce le abbia riorganizzate in un modo particolare, diverse, indicizzate a colori o a striscette, però ciò non significa che su carta le informazioni richieste standard non debbano andare a finire. Sì, ma io ti sto dicendo, siccome la legge fino a tempo fa parlava proprio di scriverlo a mano con penna nera, utilizzando gli appositi moduli eccetera eccetera, questo non è più vero, perché tu lo puoi fare digitalmente, metterlo su un dischetto e fare niente, e poi dice vengo al controllo, ecco il dischetto, adesso ti stampo tutti i dati dell'ultimo come si chiama, rapporto di trasmissione, per cui non sei obbligato, dico, a scriverlo manualmente, lo puoi catalogare, archiviare su un dischetto. Quello sto aggiungendo a queste cose. Prima proprio la legge ti diceva espressamente dovevi scriverlo a mano, a calligrafia tua, indicando le pagine numericamente una dietro l'altra, progressive, eccetera, eccetera, con tutti i dati di trasmissione, potenza, interlocutore, eccetera, eccetera. Adesso tutte queste operazioni le puoi fare direttamente abbinando un software particolare all'apparato, te lo archivi su un oggetto, diciamo, su in questo caso un dischetto, in caso di controllo tu dici ecco qua, te lo stampo sul computer con la stampante e ti do tutto informazioni di cui c'è necessario, senza scrivere niente a mano, perché stiamo parlando del progresso, non stiamo più parlando, è come quando tu metti una fattura, prima ti mettevi a scriverla a mano, adesso attacchi il computer, scrivi e parti. Ormai con la digitalizzazione globale tutte queste cose sono superate e se ne sono accorti anche loro. Sì, però se posso, è il vettore, è un altro vettore che è stato consentito, però il risultato finale comunque è che deve andare a finire su carta. Se vengono a farti un controllo e non c'è corrente elettrica, perché disgraziatamente in quel momento non c'è corrente elettrica e uno ha i dati dentro il computer, è nelle brutte condizioni di non poter visibilmente far toccare con mano il cartaceo con queste informazioni scritte dalla stampante laser, aggetto a quello che è, questo sto dicendo, quindi comunque è il dire che uno è in possesso ma non le può dare, ecco perché comunque devono essere stampate su cartaceo, in ogni caso questo è stato permesso, cioè la tecnologia di poter interfacciare, di fare tutto quello che si vuole, però alla fine su carta devono andare a finire. Sì, no, non sto dicendo quello, però prima scrivevi sempre di volta in volta, ogni collegamento scrivevi, ti mettevi, mentre qua adesso ti fa tutto in automatico il computer, sto dicendo solo quello lì, poi tu che ci deve essere un archivio cartaceo al momento che te lo richiedono, quello è naturale, non ne mette in dubbio, io dicevo soltanto del fatto di trascriverlo manualmente e basta, come il discorso delle potenze, se del mio delle potenze collegamenti fuori dalle bande radioamatoriali, quelle concesse dal piano nazionale delle frequenze. Se tu trovi quella domanda lì, scritto proprio espressamente che non puoi andare fuori dalle bande, e invece sì, è permesso, ci sono delle cause particolari, delle situazioni di emergenza tipo terremoti dove ne sono caduti dei tralicci eccetera eccetera, che tu magari riesci ad andare fuori dalle frequenze permesse, devi mettere in condizioni di trasmettere una situazione di emergenza, di soccorso, lo puoi utilizzare, ed è stato dimostrato che è stato anche fatto questo. Purtroppo la domanda, se ti capita quella domanda lì, devi scrivere no, non ci puoi andare, e non è neanche così, infatti sono abbastanza interpretabili. Per quello stava parlando Fabrizio proprio del discorso della frequenza, dipende tutto da cosa stai facendo. Se usi, come ha detto lui, corrente alternata, la frequenza è importantissima, mentre loro la risposta esatta era l'altra, la cosa era importante per il danno, non tanto la tensione quanto la corrente nella risposta per i danni all'organismo. Sì, comunque anche i testi chiaramente sono da valutare per quella che è una condizione standard, è una condizione a riposo, la condizione, la normalità, cioè nella normalità delle situazioni cos'è che è lecito e cos'è che sarebbe illecito. La straordinarietà è chiaro che va valutata in maniera differente, però in linea di principio quella che è l'indicazione comunque che bisognerebbe seguire è l'indicazione a stato normale, ecco. Certo, naturalmente noi stiamo parlando di casi molto molto particolari che vari non succederanno mai nella cosa della vita di un radioamatore, ma ci sono tante cose da dire, di tante cose opinabili, cose. Adesso per dire, noi sul 29 non ci può andare, ti capita che c'è l'apparato bloccato e trasmette solo sul 29, allora tu prendi e attacchi, paga un radioamatore, è l'unica frequenza possibile in quel momento perché c'è l'apparato crepato, non può andare, e tu te ne vai su una frequenza dove non ci puoi andare, te ne vai sul 29,5, non so che frequenza ti piace, 31, 34, quello che dice no, c'è la parecchio rotto, l'unica possibilità di trasmettere è questa banda qua. Poi c'è anche da dire un'altra cosa, c'è un'altra domanda che io l'ho trovata a riguardo dei coso, dei interruttori magnetotermici, come si chiama, del salvavita. Mi dice una domanda e ti dice io sfido a chiunque che mi dia questa risposta, almeno di persone normale. Io la so la risposta perché me la sono letta, però avrei risposto come risponderete tutti, il salvavita ti salva la vita al 100%, l'ho chiesto a chiunque di voi cosa mi dice. E ho visto anche una domanda, però lì chiunque ti direbbe di no. No, chiunque ti direbbe di sì, se c'è, io parlo un impianto efficiente al 100%, con la massa, con tutte le cose possibili e immaginabili, e come deve essere fatta a norma di legge? Secondo voi salvavita vi salva la vita? Non salva niente, porta infili. No, scusa, ho detto? No. Io ti dimostro, non io, l'ho letto per cui lo so, prendi il salvavita migliore, più efficace che puoi avere, io ti prendo tutti e due la fase del neutro, li tocco con la mano, mi isolo da terra, mi metto un tappeto in gomma, mi butti la corrente e mi fulmino. Perché il salvavita funziona per differenza di potenziale, capito? Se tu non gli crei differenza di potenziale, quindi non hai scarichi a terra, quello non funziona, benissimo, non differenziale, ma è interruttore differenziale proprio, ci deve essere una differenza di potenziale per intervenire in salvavita. Se tu fai come ti sto dicendo io, ti isoli da terra, dal terreno, ti metti un tappeto di gomma, tocchi le due fasi neutro, salvavita non interviene e ti prendi tutta la corrente. Certo, che sfiga, certo che devi avere proprio. Lo so, è quasi impossibile che tu devi fare una cosa del genere, però cazzo, c'è quella domanda e tu scrivi salvavita, la domanda l'ho vista, l'ho importata con le 30 mAh di coso, di scatto, di intervento, messo a norma di legge e tutto quanto, funziona al 100% e tu scrivi sì, invece no, devi scrivere no. Adesso l'abbiamo letta questa cosa qua mia, nessuno ci pensi domani mattina a mettere il tappettino di gomma sotto le scarpe della moglie. Sì, ma c'è anche un altro aspetto, se posso, per come sono congegnati i nostri elettrodomestici, purtroppo può capitare la malaugurata situazione per cui comunque è lo stesso elettrodomestico che tende ad essere una carica a tempo, per cui comunque che ci sia il salvavita o che non ci sia, che abbia dei tempi di intervento, che tutte le situazioni siano le situazioni previste eccetera eccetera, però quello a modo di un bel condensatore che ti scarica nel tuo bel corpicino tutto quello che ha, purtroppo D'altronde infatti gli incidenti domestici, che sono al vertice degli incidenti dei casalinghi e che incidono nel portafoglio dell'Inps, la dicono lunga su questo fatto. Però dico, stiamo parlando di quanti argomenti di domande stiamo facendo. Io ne ho migliaia di domande, non dico centinaia, migliaia, e quando ho capito a Fabrizio glielo faccio vedere, perché ho visto da dove le prendono. Parte delle domande di queste già tre sessioni che sono andate, e diciamo almeno il 60% le hanno prese dalla stessa parte. Qui le balle che dicono loro, dice che non esiste un archivio, esiste benissimo, perché io le ho trovate queste domande precise, identiche, con gli stessi valori e con gli stessi schemi, cioè non dire simili, identiche, con lo stesso significato di parole, eccetera eccetera. Per cui a quel punto mi sono fatto anche un ragionamento, ho detto cosa cacchio serve studiare tutti questi libri di elettronica che ho studiato io, che tutte quelle domande quasi niente ce n'erano. Per cui c'erano già i quiz, già belli che pronti, te li studi a memoria quei quiz, se sei fortunato e vai avanti. Però sono talmente tante le domande e gli argomenti sono talmente vasti, per cui ci vuole un po' tempo e una mente abbastanza ampia, diciamo, per fare una cosa del genere. Io me la sono tentata, purtroppo questa volta ero sicuro, posso dire. Altre volte, quando ho visto le domande, appena visto le domande, ho detto no, non è la mia portata. Però queste domande erano, come ho detto prima, abbastanza semplici. Purtroppo c'erano qualcuna trabocchetto che hanno fregato a me, e purtroppo è andata male. Ok, non me ne faccio la malattia, perché come ho detto a Claudio, lavoro, cioè ce l'ho, lui già sa che tipo lavoro c'ho, grazie a Dio, sto lavorando, non mi dà da mangiare la radio, è solo un divertimento, vorrei essere, diciamo, era un plus prendermi la patente radioamatore per cercare anche di provare a parlare con altre persone su altre frequenze, solo per quello, perché non mi piace, non ne ho mai fatto e non mi piace fare il pirata come fa qualcuno che si mette, anche se non ha la patente, andare su fuori da bande normali, diciamo, di bande cittadine, per cui voglio essere regola, almeno da quel punto di vista. Vabbè, lo so, però c'è chi gli piace la vita spericolata, cacchio. Anche a proposito, non è che c'è per caso Archimede in frequenza? Non lo sento. Claudio, a proposito di Archimede, ci sei qua? Dio, ci sei? Sta scolando mezzo litro di birra. Devo essere in qualche banda pirata che sta andando a chiacchierare. No, perché se siete su Facebook c'è la modulazione di Claudio e di Gianni Doppio Rum, non so se avete l'amicizia con Massimiliano. L'ho sentita questa storia, no, bisogna che ve la faccia fare, anzi a Claudio gli devo chiedere una cosa, se c'è Claudio. Sì, io te l'ho chiesta, proprio stasera, mi è venuto in mente il tuo nome e cognome e te l'ho chiesta. Buttala do, non ho acceso il computer, anzi in genere rimane acceso qua, almeno più. Alle volte anche 24 su 24 acceso questo computer, ultimamente lo sto accendendo di meno, dai, mi sto facendo una chiacchierata in più e via, capito? E va bene, dai, adesso penso un mezzetto e mezzo, e queste orecchie d'asino mi dovrebbero cadere, dai, cosa dici già? Sì, Fabri, con la storia dello Smitter poi sei riuscito a fare la comparazione? Sì, sono fatto l'acquario, stasera abbiamo fatto la comparazione e era pochissimo lo scarto, l'abbiamo giusto per una questione così, per avere lo stesso Smitter, l'ho portato, avevo 5 dB solamente in più di Claudio. La trasmissione è ok? Sì, per il era tutto uguale, infatti non lo spedisco su, non la radio va benissimo, è a posto, capito, non va niente. L'unico problema è che questa radio qua è in FM, che sorda in FM e basta, quindi adesso bisogna che la vedo con calma, questo rifletto qui, se riesco a metterlo a posto, ed è solo quello, quindi non ne vale la pena, capito? Abbiamo fatto un po' di prove con Claudio, cioè un po' di prove paragonata alla sua, ed è uguale identica più o meno, quindi sia in trasmissione che in ricezione, capito? Quindi non anche su quanta altra frequenza siamo andati, soprattutto in ricezione, i segnali sono quelli, il QRM è quello lì, eccetera eccetera, quindi io mi stavo mettendo problemi che non esistevano, poi ho portato leggermente giù un attimino lo smitter di 5 dB, quelli che erano quella differenza, e quindi va bene, non la spedisco, non c'è bisogno, va. Ma quindi mi fa dire questo che il lavoro fatto sull'antenna è alla fine un lavoro egregio. E di quale lavoro? Di quale antenna e di quale lavoro? Quello di tirare su l'antenna guadagnando con quei metri hai fatto un grande salto alla fine. Sì, no, non è potuto dire niente. Io tra l'altro se un giorno ti capita di passare la vedi, perché è anche brutta da vedere, si vede questo palazzo con questa antenna alta che non si vede quasi nemmeno il tubo, si vede questa antenna a 8 metri d'altezza, ma poi c'è quest'altra casuccia di 4 metri, questa cosa alta, nemmeno per chi la vede. Capo, non ci sei passato tutta sera, perché io lì ero di casa sino a un po' di anni fa. Io abitavo proprio lì nel palazzo Fangolo, quello color pesca, e lì c'era un ultimo piano con la mansarda e avevo montato io lì la mia antenna, ed era una posizione fenomenale. E stasera che sono passato per un altro motivo, mi ha colpito proprio all'occhio la posizione dell'antenna, perché è proprio bella alta, ma l'hai tirantata, quanto gliene hai messo? Io ho messo tre tiranti, con la di Roberto, non c'è tanto, tre tiranti a 50 centimetri da su, diciamo in alto, e tre tiranti al centro, e quindi è bella tirantata, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Ed è alta, no? Cioè, se l'hai notata è alta, dai. Oh, caspita, sì, molto bene. Sei uscito, eri in pratica eri quasi in un coso, eri chiuso da quel palazzo di fronte e da quell'altro molto alto alla destra venendo. Sì, credo che abbia guadagnato tantissimo, proprio tantissimo per questo motivo. Sì, perché poi se tu guardi, vabbè, se poi tu sali sul terrazzo e poi sali su quella casetta, diciamo, casetta chiama la casetta dell'ascensore, quella, non so, mi ricordo di quel nome, che sono altri 4 metri, comunque se sali in piedi vedi, è tutto libero. L'unico palazzo che potrebbe darmi problemi potrebbe essere quello che c'ho di fronte, perché c'ho due piani in più di me, uno un piano in più di me. Però una volta fatto questo lavoro qua, l'ho portata così, anche se non mi ostacolava, è la verità, però ovviamente ho migliorato notevolmente. Sì, ho capito, abito io, c'ho il garage lì, ho acquistato il garage lì in quel palazzo dove dicevi tu, quello che è il villaggio, come lo chiamano? Residence, cioè lì ho comprato il garage da poco, perché era quasi impossibile trovare parcheggio lì, capito? Fabri, una domanda. Dimmi. Ma ricordami, la che antenna stai usando tu, e poi volevo sapere il particolare. È quella con la carità, guarda, io ho esattamente il nome, che comunque è la stessa, sarebbe quella Sirio 2000, mi sembra, quella con 8 radiali, che la facevano anche con 16 radiali, che poi forse dell'Inter, che questa comunque è la solita antenna. Quanto è lunga? Ma non ha 5 ottavi quella? Sì, 5 ottavi. Sicuramente c'è un pianto, siccome non ce l'ho presente, c'è un piantone tipo la manta qua sotto, dove la metti dentro un tubo o la fissi con delle gaffe? No, è diversa, la fissi con delle gaffe, c'è una piazza, guarda che quella che c'ha la carica bella grossa, che resiste un sacco di watt, c'è sulla carica all'interno di una campana trasparente in plexiglass. Sì, ho capito. No, ti sto facendo queste domande, siccome qualcuno quando mette la tiranteria fa degli errori. E a che altezza tu hai messo? L'hai messa tipo la mia, la tiranteria, ne hai messo una vicino, diciamo, alla base dell'antenna e una un po' più in basso, così mi immagino. Sì, io ho messo, immaginati il palo alto, non sull'antenna, sul palo dell'antenna, a quanto l'avrò messo a 50 centimetri, 60 centimetri sotto l'antenna, e poi l'altro centro dell'antenna. Sì, è fatto bene, non salire più del metro, perché se no ti fa l'effetto frusta, perché qualcuno la metteva più in giù nelle manto, si spaccava il piantone, metteva la rosa, diciamo il rosone, quello dove ti fissavi i tiranti, aumenta oltre un metro di distanza dal piantone dell'antenna, quello in plexiglass, non in plexiglass, scusa, in fibra di vetro, per cui ti faceva la contraccolpo, quando sbatteva la punta che c'era il vento ti dava il contraccolpo sotto e scaricava tutta la forza sul piantone, lo spaccava, lo sai quante se ne sono rotte di mano. di mettere i tiranti il più vicino possibile all'antenna, meno di un metro sicuramente, almeno per leggi fisiche di elasticità di materiali, e poi l'altra a meseria, diciamo, in modo che c'è la distribuzione delle forze, torcenti dal vento. Dimmi una cosa, che tiranti stai utilizzando, che cavo ha utilizzato? Ah, quelli tiranti economicissimi ho messo per il momento, capito? Tanto sono 6, nel tempo lo vedo, se tanto non se ne parte qualcuno poi li cambierò, però sono rivestiti in acciaio interni e esternamente sono quelli da, diciamo, da stendere, dai. Fabri, non ti voglio deludere, però buttaceli via correndo. Allora, io avevo un'antenna, avevamo una piccola stazione su altre bande, non parliamo su radio, cioè parliamo radio private, avevamo 13 metri di palo, utilizzando quel tipo di cavo, quel cavo solito per stendere, con l'anima interna metallica, e ce ne butta per terra, ne è partita una, ne è scesa interna, tutta intera l'antenna, ne è caduta interna. Se avevo un consiglio, almeno io ho fatto un lavoro definitivo, a parte i palo ho utilizzato tubi di acqua, quelli di diverso diametro, in officina me li faccio voi i lavori di saldatura con i bulloni in modo da renderlo telescopico, forato e telescopico, vabbè, quello chi lo vuol fare lo fa, se no se li compra quelli che belli che già pronti, magari non sono della stessa robustezza, utilizza il cavo nautico, non sbagli, il cavo intrecciato, quello in nylon che usano per le cime nautiche, di spessore va bene anche da sé, senza serie di spessore, gli ho fatto io l'impiombatura in acciaio inossidabile, la redance e alle basi dove ci sono i tiranti, dove fissano i tiranti, ho usato i registri, come si chiama? Quelli che usano quando fanno le reti di recinzione, in modo che ogni tanto lo regoli, te lo fa esattamente, tensione ogni cavo deve avere la stessa tensione, in modo che non ci siano delle sollecitazioni in punti di, diciamo, deve essere tutta distribuita uniformemente, usi quei regolatori di registro, non so se ce li hai presenti, in modo che c'è un lavoro definitivo, non si consuma il cavo, dove consuma il cavo li metti la redance con l'impiombatura ed è un lavoro a regola d'arte. Io ho fatto quello, se tu vedi l'antenna mia la pigliando di vento, perché dove sono io è tutto aperto, l'hai visto, eppure grazie a Dio non è successo. L'unica cosa è successo l'inverno scorso, mi ha mollato un tirante, un tassello di quelli grossi, ha ceduto la base, probabilmente l'intonaco non era al 100%, perché ho dovuto riforare e mi ha mollato un tirante. Fortunatamente ce ne sono 6, come ce li hai tu, incrociati, li ho messi, per cui non è successo niente, però vedevo che l'antenna stava oscillando un po' di più del solito, sono salito su e me ne ha strappato un tirante, dalla base però. Naturalmente, perché questi cavi, se usi quel cavetto d'acciaio, si arrugginisce all'interno, a me mi è successo quello, entra l'unità all'interno, col tempo si arrugginisce e strappa, a meno che non ce l'hai in acciaio inox, ma non credo, perché trovare in acciaio inox è quasi impossibile, a quel punto ti conviene prenderti con la treccia di nylon, con la nautica, ed è un lavoro definitivo, non la tocchi più. No, Fabri, quello per i fucili da pesca, in poche parole mi prendi. Poi per fare la tiranteria come si deve prendi delle molle sottili, in modo che rimanga il giocchino che abbia elasticità e il tubo, in poche parole. Mia, guarda, ci ho messo i tasselli chimici, le due staffe con tasselli chimici. Li prendi, Fabrizio? Ho capito, per il momento ho messo questi tiranti d'acciaio rivestiti in nylon, ma va bene, dai, per il momento, adesso per questo inverno non credo che diano problemi, intanto poi gli ho creato il tarlato, il mio ci salgo ogni tanto a vedere, ogni giorno alzo la testa per vedere un po', poi soprattutto quando inizia un po' di vento salgo su a vedere, male male il giorno che dovesse mollare qualcuno faccio veloce, due bulloni, la tiro giù, la porto all'altezza di 3 metri veloce e poi penso di cambiare i tiranti, un paio d'ore li cambio, non c'è problema. Per il momento lasciamo questi perché io ho fatto un bel lavoro con i suoi morsettini, quindi faccio anche veloce a smontarli e per il momento rimane così. A quel punto poi quando deciderò di cambiarli perché si stanno deteriorando metterò qualcosa, procurerò qualcosa un pochettino più decente, tipo anche acciaio inox, qualcosa da procurerò, vediamo un po' me la faccio procurare, vediamo un po' di trovare qualcosa. Poi ho visto anche su internet si trovano dei cavi dei tiranti particolari con matasse da 100 metri a prezzi abbordabili, ma per il momento ho preferito mettere questi che sono in acciaio rivestiti in nylon, in plastica e vediamo un po'. ho provato a strapparli, ma è difficile, giustamente se si deteriorano che entra l'acqua può essere anche che si rovinino, ma per il momento li lasciamo. Io ho preso l'acciaio inox intrecciato e ne ho messo tre, però devo ultimare il lavoro con la messa a massa di tutto quanto per bene. E quello, se c'è da qualche parte la massa, la colleghi al tubo dove c'è l'antenna. Comunque Fabri, per quest'anno ce la dovrebbe fare a reggerlo tranquillamente, quella roba che hai messo, però diciamo al prossimo anno d'estate, prima di iniziare l'estate, ti conviene. C'era ultimamente con le matasse, le avevo viste da Fadda, mi ricordo se erano 24-25 metri, 6,80 euro costavano, le avevano messe in offerta, però non ti so dire se ci sono ancora. Adesso sono perfettamente le misure e il prossimo anno le posso cambiare, diciamo quelli si rovinano se gli entrano, in effetti non sono né uniti né niente, quindi vediamo, tanto io sono lì, non mi costa niente, salgo sul tetto, basta che gli do un'occhiata, li vedo subito se si stanno deteriorando prima che si rovinino, li cambio. Quello manca a me, mi è venuto in mente, ho detto, ma questi cavi in acciaio rivestiti vanno bene finché non si deteriorano, ma basta tenerli un po' sotto controllo e al limite una mattinata, perché ho montato già due antenne, ma con vento di quelli pazzeschi, immaginati se a scenderla, poi non ci vuole niente, perché la scendi, cambi i tiranti e la ritiri su perché è telescopico, quindi il lavoro è fattibile con poco tempo, ma quando si deteriora non ci penserò. Fabio, c'è da dire anche un'altra cosa, scusa. Dimmi. A metallo meno le metti vicino all'antenna è anche meglio per certi versi, per questione di radiazione e cose del genere. Tieni presente, quando si è rotta a me l'antenna, il cavo, è successo nell'arco di 5 minuti, perché io alzavo lo sguardo, ogni tanto ce l'avevo davanti a casa, davanti agli occhi, e c'era 5 minuti prima, di colpo poi mi giro e non avevo l'antenna, l'ha fatto un tirante e automaticamente mi è caduta tutto il resto, sarà portata col peso proprio dell'antenna, senza il discorso del vento, il peso proprio dell'antenna mi è caduto tutto in terra, mi ha piegato al suo netto il palo, si è proprio piegato completamente. Perché una volta che c'è il tirante di traverso, quelli opposti, se la tirano dall'altra parte ed è caduta tutta intera l'antenna. Era una collineare a quattro elementi, quattro collineari erano a due elementi ed è caduta tutta intera l'antenna. Io prima di montare questo tipo di cavo in nylon, quello delle cimette, classiche cimette nautiche da 6, ce l'ho ancora, l'avevo acquistato da un amico radioamatore, ho detto fai questo tipo di lavoro, che lo utilizziamo per le barche a vela e cose del genere, i pali delle. Mi ha detto va bene anche, c'è presente tu dici spugliatori? Sì, sì. E i nylon delle cespugliature, cioè presente, quello devo vendere una matassa di 100 metri, ci sono di tutte le misure, quello è un lavoro definitivo, ti usi i morsetti, quelli che usano per le barche a vela, per gli alberi, sono dei morsetti in acciaio inox che li chiudi, te lo chiudi, dei serraggi perfetti, che per cui c'ha due bulloncini da 10, una volta che è chiuso non si rompe più, perché è perfettamente fatta a misura, cioè tipo il cavo della bicicletta, dei freni, non so se c'è presente, una cosa simile, l'avevo già tutto fatto, però siccome bisognava tutto calibrare, non potevi mettere i tiranti di regolazione, i registri, alla fine l'ho mollato, perché con quel lavoro lì è definitivo, non fai più niente e ti dura eterno, sono di quei cavi, è un cavetto unico, tipo una lenta per pescatore, però magari la prende da 6 mm, una cosa del genere, ed è un lavoro eterno, però è un po' problematico se devi prendere a passare o fare qualche lavoro di manutenzione. Fabio, scusa, riprendo io, vi devo lasciare perché devo andare a recuperare il giovincello. Quindi casomai ci sentiamo, non so, domani alla se devi andare a lavoro. Allora, buonanotte a tutti, QRT per Romeo Primero, operatore Antonio. Riprendi Fabrizio. No, adesso io, vabbè, questa settimana sono scarico di lavoro, la prossima settimana adesso se ne parla. La prima cosa che faccio, cerco quella roba lì e poi appena ce l'ho possiamo fare quello che vogliamo, problemi non ce ne sono, capito? Ce ne scendiamo lì da me e la realizziamo, non c'è problema, la mattina, anche di sera, però di mattina quando sono libero non ho nessun problema, dalle 9 sino all'1 senza problemi si può questa roba, tanto a fare i furi, saranno da sì, furi da 8, non mi ricordo da quanto sono le stecche, si buca tutto quanto, poi si assieme a tutto, no? Già è una cazzata, insomma, l'importante è avere roba là, quello è il materiale che ci serve di più. Vabbè, buonanotte a tutti, QRT per me. Ok, buonanotte e buon QRT, alle prossime ci sentiamo, poi come entra Claudio vi faccio mandare un messaggio, dai. Avanti, chi c'è rimasto? Io ho perso un po' il conto, ma Gianni doppio rum, ancora c'è Gianni? Mi sembra di no. Beh, forse non è entrato, chissà perché, ero convinto che era in ruota. Riprendi, Salvatore. Ciao, salutoni, Romeo 1. A risentirci alla prossima, buon tutto, buon tutto. Fabri, io ho trovato tutto da Bricoman, tutto da Bricoman. Aspetta, però rilanciamo per i saluti a Romeo 1. Bah, ho perso il conto. Riprendi, Romeo. Ti rivolgo a me, Salvatore. Scusami, Romeo, sì, per un attimo ho avuto un bel lapsus, un bianco totale. No, sinceramente l'amico la prima volta che lo sento, come si chiama? Mi stavo confondendo perché c'era una modulazione abbastanza simile, almeno il segnale Salvatore con l'amico, così Antonio, ho capito se non sbaglio. Sì, mi sembra Romeo 1, operatore Antonio. Non l'ho mai sentito, per cui lo saluto per la prima volta. Ok, a risenti c'è stata una buona conversazione abbastanza educativa, diciamo, a livello di discorsi di radio. Ben sentito comunque. Avanti di nuovo Fabrizio, che anche io tra pochi secondi chiudo. Dai, vi rilancio. Ok, dai. Vediamo se c'è Claudio. Claudio, gli si deve essere bruciato tutto a Claudio, non rispondere 3-4 volte. Dai. Claudio, dove al buio è arrivato, sta attaccando il gruppo elettrogeno sicuramente. A quanto ce l'hai tu in questo momento il QRM? Perché mi ha incuriosito il valore di QRM che avevi ieri. 102,3. È alto, vedi, più alto di quanto ce l'abbia io. Io ce l'ho 1, ogni tanto sale a 2, ma proprio raro, difficile. Piantato a 1. Aspetta che guardo e non riprendere. È sempre a 2,5. Sì, sì, 1,5, 1, 2 raramente tocca, sì, sì, curioso. Ti dicevo, da Bricoman ho trovato tutto il necessario. Sì, io so che trovi tutto, ma ho preferito prendere quello perché mi ispirava più fiducia, capito? E via, poi credo che un paio di stagioni li faccia anche di più secondo me, però a controllare non credo che il vento riesca a strapparli, anche perché sono tesi, il punto giusto, hanno un po' di là, vabbè là sono, perché io sono tesi, perché poi quando sono tre è più semplice, no? Perché cosa fai? Gli tendi i primi due, li tendi senza piegare il tubo, no? La punta alta, per esempio, ho fatto prima quelli in alto, li ho tesi i primi due, li ho messi più, poi il terzo prendi e tendi e tiri, io uso quelli che sta dicendo lui, i morsi tira 10, no? Quindi prendi e tendi, tac, e tieni tesi, poi quelli di sotto fanno la stessa cosa, quindi sono belli tesi, cioè belli tesi, sono tesi al punto giusto, non ci dovrebbero essere problemi, poi io dipendo dal vento, da tutto, chissà cosa può succedere. E cappano, io li ho tesi proprio bene, bene, bene. C'ho poi l'attacco con la vite senza fine, no? Dove tu ruoti e gli dai la tensione. Anche quelli li ho messi di acciaio. Però adesso devo fare il discorso, perché volevo spiegare meglio, perché io non ho usato la sagola a nautica che comunque è certamente più indicata proprio per motivi di non conduttività, perché siccome c'è un vecchissimo tubo da dovrebbero essere 10 pollici che era di una vecchissima conduttura di gas degli anni 60 che serviva un paio di appartamenti del palazzo, che passa tutta quanta in esterno e arriva fino a su in cima al palazzo e poi muore interrata alla base del palazzo. E voglio proprio utilizzare quella come scarico e quindi mettere l'antenna e anche altre varie cose che ho attaccato lì nel torrino dell'ascensore, e mettere tutto quanto per bene a massa, in modo tale che così qualsiasi porcheria che viene raccolta cerchi di scaricarla a terra. Ho capito, però ho detto un valore un po' grande, 10 pollici mi sembra un po' esagerato. È un tubone, proprio sembra un tubo d'acqua, è grosso, è grossissimo. E grosso quanto, 10 pollici, sai quanti sono, quanto sono? 25 centimetri. Scusami, un pollice non è 2 centimetri e 54. Un pollice, diciamo, se tubo l'acqua, un pollice può essere un pollice esterno, parliamo esterno utile, che poi non è diciamo tubo acqua, quindi gas, è 33 esatto, anche se poi diciamo che la misurazione si parla dell'interno, no? Se parliamo come comunificazione poi si tende esterno ed è 33 mm, mentre come teoricamente si dovrebbe prendere la misura interna, però sarebbe quasi impossibile perché ci sono i tubi schedulati, quindi con schedule diverse, con diciamo grossezza del materiale diverse, quindi sarebbe impossibile avere, che ne so, le filiere, quanti tipi di filiera dovresti avere, e quindi 33 con quel tubo da un pollice. Facciamolo in millimetri, vabbè, così togliamo il dubbio. È un tubo il cui diametro è circa 12 centimetri. Allora, 12 centimetri, 9 centimetri è 3 pollici, e sarà circa 4 pollici. Facciamo 4 pollici. Rapportandola alle misure in pollici. Quattro pollici sono mignolo. Era per dire che c'è questo tubone che, siccome è inutilizzato, voglio sfruttare questo, capito? Per scaricare tutto quanto. Sì, no, solo la scarichi poi boh. Lì teoricamente dovresti fare una gabbietta di Faraday per scaricare, non credo che quello gli faccia da scarico. Vabbè, però la sua dimensione, la sua lunghezza e la perdita nel terreno e il suo oramai disuso, devi considerare che poi nel terreno continua a camminare per altri metri e metri in completo stato di abbandono. Certo, non dissiperà al meglio, però certamente è meglio che un pugno in un occhio. Sì, quello sì, però voglio dire, però c'è una 5 ottavi. Sì, una 5 ottavi, però con cioè la 5 ottavi, la mia è 7 metri e 20, con il tubo che gli ho messo su e sono 3 più 2 più un altro, diciamo altri 6 metri di tubo, più tutte le zanche di ferro, più i 3 tiranti d'acciaio, più altra roba di ferro che c'è lì nelle vicinanze, per cui volevo attaccare il tutto ed eventuali correnti mandarle via. Ho capito, prova. Cosa pensi, Roberto? Guarda, io ho parlato con della gente che fa degli impianti di antenna professionali, qualcuno al discorso del parafulmine è d'accordo, ci sono delle idee diverse, diciamo, qualcuno dice a metterlo, qualche altro dice a lasciar perdere, soprattutto questo tipo di antenne che utilizziamo noi, che sono cortocircuitate, per cui teoricamente almeno la Mantova non ne dovrebbe avere necessità, però ci sono delle idee diverse, dite pure del contro. Io nella mia non ho messo niente, tra parentesi, mi hanno detto non mettere niente, non c'è bisogno. Discorso, ci sono tante opinioni diverse. Lo so, io lo stesso non ho messo niente, una volta non abitavo in campagna, ho messo un parete di un metro e mezzo sotto e ci ho collegato la terra per evitare mille, però alla fine è cortocircuitata, quindi tutto. Poi voglio dire, se ti cade il fulmine è la prima secondo me che attrae, quello non ci piove. Discorso, se c'è, devi sperare che vicino a te ci sia qualche altra antenna più in alto di te, perché ti vedete il fulmine va sempre nel punto più in alto. Se sei fortunato, vicino a te c'è anche un'antenna televisiva semplicissima, un po' più in alto della tua, normalmente il fulmine scarica sempre nel punto più in alto. Salvatore, ho sentito la vista, di più in alto della mia non c'è niente, capito? Io c'ho un collega che poi è radioamatore e avevo un'antenna sul tetto, qui non opera, però ascolta, avevo un'antenna, quando gli è sceso un fulmine, ha sentito questo botto a casa, c'è stato un casino, eccetera, sono intervenuti anche i pompieri perché aveva preso fuoco via i punti, roba del gas, eccetera, non mi ricordo. Il domani mattina quando si è alzato, ha detto, Gesù, che è successo? L'antenna detto, non l'ha più trovata, cioè a dire che ne ha visto un pezzo disintegrato, gli ha bucato il tetto e allora la macchina con pochi mesi di vita gli è caduta tutta l'antenna fusa sulla macchina, devi vedere come gliela ha conciata. E dell'antenna ha detto, Fabio, io dell'antenna non ho trovato niente, nemmeno un pezzo. È stato sfigato al massimo, perché non avevo mai sentito gente di cadere il fulmine sull'antenna. Vicino sì, ho sentito gente anche a Natalino che è caduto, mi sembra, un paio di volte, gli ha bruciato tutta la linea elettrica, pompa del pozzo, eccetera, eccetera, un sacco di danno, però non gli è caduta vicino, ha scaricato, cioè non è caduta sull'antenna, è scaricata su un albero vicino. Purtroppo sono migliaia, centinaia di migliaia di ampere che ti cadono una corrente allucinante, per quello, anche se non sei nelle immediate vicinanze, che si scarica ti fa danno. Come quando te la metti, non è molto più andare sul tetto. Bella è stata quando nel palazzo di mia madre a Nuoro, che è un palazzo molto molto alto, una sera hanno sentito questo botto, questo bel trocco, e quando si sono trovate poi a parlare con le vicine hanno commentato, accidenti, ma ti hai sentito quel suono? Sì, caspita, che botto, e poi ha vibrato tutto il palazzo, sì, ha vibrato tutto il palazzo, accidenti, deve essere caduto qui vicino, gli era accaduto nel comignolo della canna a fumaia dell'impianto di riscaldamento su nel tetto, ma il fulmine gli ha segato in due, completamente in due, il capino. Se ne sono accorti quando uno è andato accidentalmente, perché non vedeva più la televisione, e ha trovato le antenne che erano a burro rotolate lungo il palo di recinzione. Lo so, e te non si è accorto la notte, e te su che hai sentito un botto, e in domani mattina ha trovato il tetto bucato, immaginate un po', un bel danno gli ha fatto, e così anche questo si è ricoricato, non c'era luce, non so bene voi, però se ne è accorto in domani mattina. Infatti anche io qua mi ero antenna di alta, già, male cosa può succedere, una volta che è staccato il cavo male me la scioglie. Io infatti, per non saperne leggere né scrivere, io comunque ogni volta che smetto di trasmettere, stacco il cavo, lo tolgo dall'apparato, stacco la massa dall'apparato, riavvolgo il tutto e sono completamente isolato, e se scende, se viene raccolta qualcosa, qualche porcheria, se ne rimane nel cavo è buon per lui. E io dovrei avere la cortezza, cioè il come si chiama, il selettore di antenna, di metterlo su una parte dove non c'è niente, capito? Quindi al limite non dovrebbe arrivare all'apparecchio, ma se non male si friggerà l'apparecchio. E adesso lo metto un filo di terra e lo collego a una persona che mi dice sempre che disturbo. Alla radio tu gliene hai messo la massa, sì. E dove l'attacco? consiglio, il filo l'ho messo, ma adesso mi stasera l'ho messo, ma dovrei fare attaccarlo da qualche parte. Beh, io ce l'ho attaccato fuori nella... siccome abbiamo fatto i terrazzini nuovi da poco, e questo è molto molto grande, e sono a loro volta saldati nell'ingabbiatura in ferro del terrazzo, per cui ferro, tutto ferro, l'ho attaccato a un braccetto della ringhiera. Io ho capito, beh, te la passa il QRM. Beh, te l'ho detto, io ce l'ho a uno con punte di due, ma difficilmente arrivo a due. E mai provato a scollegarla, a vedere che differenza c'hai. Scusate un attimo. Avanti, Roberto. Vabbè, io devo interrompere, dai, per me se c'è stato fatto tardi, un attimo devo andare presto per fare le cose. Comunque vi saluto, è stato un bel corso molto interessante. Ciao Fabrizio, avrò modo di sentirci, idem per Salvatore. QRT da parte mia, buonanotte a tutti. Ok, ciao Robe, buonanotte, buone cose per domani, se devi fare qualcosa di particolare, anche se è festa, e tutte cose, dai. Avanti per i saluti, Salvatore. Ciao, risentirci e grazie a te per il QSO e buon tutto per domani e per le visite di routine che ci saranno un po' per tutti. Ok, ciao, a risentirci. Ok, io cosa ti stavo dicendo? Hai provato a scollegarla la terra per me, la messa a terra? Quanto influisce? Posso anche provare adesso. No, ma secondo me non influisce. Però io non credo che influisca, però dalle caratteristiche dalle raccomandazioni della casa madre, lo dà comunque a protezione dell'apparato che l'ha messa a terra, per cui non credo che l'abbiano scritto pensando all'abbattimento del QRM. Sì, no, quello sì, quello lì, vabbè, io come la foto è dell'apparecchio, cioè, se si fulmina e pacis, vuol dire che è giunta l'ora di mettere una croce sopra, capito? Cappa, però io gli ho dato questa lettura, anche perché è un'indicazione che ho visto che con molta regolarità viene ripresa dalle maggiori case produttrici di apparecchiature e lo mettono bene in vista questo discorso, per cui parlando di correnti significa che siccome vanno avanti e indietro e ne vanno in un quantitativo industriale, molto probabilmente se qualcuno sfugge al controllo è bene che se ne vada fuori e in fretta. No, quello sì, per carità, cioè, perché io non ho mai collegato, oggi ce l'avevo in mano, quindi ho collegato un pezzo di cavetto nero. Poi ho detto, ma dove cavolo me l'attacco? L'ho messo lì dietro, poi ci devo pensare, dove l'attacco? No, non so dove attaccarlo, capito? Cavolo, io ho capito, io ho comprato infatti il classico verde-giallo da 3 mm, ho 4, questo, da quanto è? Da 3, questa da 3, e un paio di metri arriva lì alla ringhiera. Ho capito, vabbè, io non ho la possibilità, anche perché io perché ce l'ho in soggiorno e se avessi avuto una stanza dedicata non avrei mica venduto niente, avrei messo tutto lì comprato, acquistato e messo la roba lì come faccio io, capito? Non ho proprio lo spazio per poterlo fare. Sì, c'ho il terrazzo, teoricamente su potrei farmi una casettina per la radio, ma poi mi isolerei troppo, capito? Quindi no, non va bene, ma poi soprattutto per quell'attività che faccio adesso va bene così. Se dovessi fare delle attività diverse un domani, allora ci dovrei pensare, però non saprei proprio dove farla una stazioncina, capito? Con più di un apparecchio diventerebbe un problema per me. Anche avere un apparecchio più grande di questo, adesso sto pensando di acquistarlo, però mi sto guardando intorno, dove sono io, ho di rifare un ripiano dove appoggiarlo vicino, dove io mi siedo e poterlo utilizzare, però non puoi nemmeno esagerare, capito? Assolutamente, ho capito, sì. Io mi sono adattato, siccome per me questo è comunque una piacevole diversivo, io ho prediletto quello che è invece la mia attività principale, per cui il maggiore spazio l'ho dedicato alla scrivania, dove c'ho il computer e dove c'ho le altre cose. E questo è in un tavolino poggiato dove esce due dita da una parte e quattro dita dall'altra, e ogni volta che devo trasmettere svolgo il cavo dal terrazzo, lo attacco, svolgo la massa, attacco e accendo e parlo. Quando finisco faccio l'operazione inversa. Questo è proprio sono in un metro quadro e mezzo forse. Io ho capito, io ho sempre collegato lì, è diventato un pezzetto d'arredo, anche carino, su un angolino, ho messo un tavolino piccolino che non si vede sotto l'alimentatore, tutto ben sistemato, ed è carino da vedere, è la grandezza giusta, capito anche. Quindi io vorrei cambiare, ma dovrei fare il lavoro, io c'ho tutto in castro, fatto bene, c'è un appartamento molto grande, saranno 90 metri quadri, 85, sì, saranno, non sono 10 per 90 lordi, 92 lordi. Tipo, quindi non un appartamento così grande, la verità, devo cambiare casa, ma non ne ho voglia, io sinceramente mi trovo bene come posizione, mia moglie c'è il negozio, che c'è la macchina che è sempre buttata, non la usa perché è a due passi. Adesso ti ho detto che sono riuscito a trovarmi, a comprarmi questo posto auto, quindi metto la macchina senza problemi. Io sto bene, la verità, però mi servirebbe, la verità, una stanza in più, e quindi sono quasi costretto a cambiare casa. Anche io, poi a me della casa, a me poco interessa perché ci vivo poco, ci sto veramente poco a casa, quindi non stare lì per cambiare casa, pensare al trasloco, rifare tutto, mamma mia, mi vedo venendo i brividi. Capisco perfettamente. Capisco perfettamente, noi ci siamo spostati nel febbraio del 2009, febbraio 2009, sì, febbraio 2009 ci siamo spostati, ed è effettivamente da incubo, tra l'altro nello smonta e rimonta due armadi hanno subito danni, altre cose, poi per non parlare delle classiche configurazioni della cucina, ad esempio, dove chiaramente tutte quante le cose che tu studi a misura vanno bene per quella misura e per un appartamento per un ambiente speculare. Fatto sta che, siccome questo non era per nulla speculare, perché noi la stavamo cercando comunque con una stanza in più, con una sala molto più grande, con un bagno in più, eccetera eccetera, quindi di speculare non c'era nulla, portano via tanto tempo. Meno male, la fortuna è stata che almeno per la cucina era ancora in produzione il nostro modello di cucina, ed è 10 anni che è in produzione, pensa un pochettino, e quindi lo spazio che mancava siamo riusciti a coprirlo prendendo dei moduli aggiuntivi, e quindi facendo tutte quante queste cose siamo comunque riusciti a recuperare tutto quello che avevamo, però tutti i mobili farli entrare dalle finestre, perché laterale nel vano scala non passavano, non curvavano, l'ascensore non era possibile utilizzarlo, e quindi veramente molto stress. A me io, tu considera che qui c'ho tutti i mobili praticamente sono fatti dal falegname, e quindi certo, la cucina è stata fatta su misura al falegname, i mobili del soggiorno sono fatti dal falegname, tutti quanti, le vetrine, mamma mia. Cioè io sto, questi una volta che li smuovono sono talmente pesanti e una volta che li smuovono li disintegrano, che poi sono fatti in noce, capito? Non c'è sarda, questi addirittura sono, quindi particolari, cioè il tavolo tutto fatto a mano, cioè solo se penso come li smontano li distruggono, cioè non lo so, guarda, per carità, non ci voglio nemmeno pensare, ho detto poi mamma mia, se non mi costringo io me ne rimango qua. Fabri, forse il motivo è lo stesso che quello che abbiamo avuto noi, perché comunque la bambina voleva giustamente avere un po' più di spazio. Noi volevamo avere una sala che non fosse la classica sala con lo spazietto adiacente come angolo cottura, ma stavamo cercando proprio metri in più, Fabri, metri in più. E quindi per vivere bene, meglio, tutti e tre, questa cosa l'abbiamo fatta. Certo, col senno del poi probabilmente avremmo dovuto prestare maggiore attenzione nell'attività fatta dall'impresa durante lo smontaggio dei mobili, perché dei danni comunque ci sono stati, e i mobili di pregio, l'hai detta bene tu, cioè poi una volta che li rovini, cacchio, rovinati sono, non c'è santo, rovinati, è inutile poi le discussioni o quant'altro, una volta che una cosa è rovinata, però accidenti, cioè per far star meglio gli altri questi passi li fai. Non so, vediamo, io adesso vediamo, non lo so, io ho due palle, capito, perché non ne voglio, io per spostarmi e andarmi ad abitare in condominio sempre mi si girano le balle, se invece ci fosse stata di andare a vivere fuori e farmi una casa come dico io, allora sarei stato anche disposto e contento, ma pensare che me ne devo andare in un altro condominio per avere una stanza in più, tutti i casini eccetera eccetera, non so se ne vale la pena. Tu lo sai benissimo, perché con l'attività parallela che stavi facendo di questioni condominiali ne avrei anche sentito. Il fatto è che sai sempre quando vai via i pregi e difetti dell'immobile e della gente che ti sta attorno, ma del posto dove tu vai a finire tutto non lo sai, quindi c'è una buona dose comunque di sorpresa. Ci sono quelle incognite che sono brutte, e poi uno dice porca ad una miseria, sono caduto dalla padella alla braccia. Lo so, poi la scala della fretta non piace, quindi prima stavo dando un'occhiata alla verità, poi non ne voglio adesso, se proprio insisto, vabbè, no, non sto insistendo nessuno, per carità, solo che poi alla fine anche io ripensavo una sala più grande, una camera mi servirebbe a me, però poi alla fine in effetti ci penso, io non c'ho una sala così grande, ma dove ci vivo, poi c'è una cucina ovviamente, però dove ci vivo alla fine ho notato che anche amici non se ne invita più come una volta, quando ci dobbiamo trovare, noi ci troviamo, andiamo a mangiare una cosa fuori e facciamo prima che venite a casa, ogni tanto capita, ma cosa può capitare invece due amici? Un'altra coppia, quando può capitare, ma è più le volte che andiamo a mangiare qualcosa fuori che uno invita l'altro, capito? Perché, e quindi alla fine anche tutto questo spazio che magari mi potrebbe solo pensare per invitare più persone, non so se ne valga la pena. Non lo stai facendo solo per quando inviti le altre persone. Nel nostro caso, ad esempio, noi stavamo cercando, intanto noi quando abbiamo acquistato la casa precedente, l'abbiamo presa, come tutte le case recenti, di nuova tipologia, praticamente ti trovi il soggiorno ingresso, no, tu entri dentro casa e c'hai il soggiorno ingresso. Alla fine però questa è diventata una rottura di palle, perché comunque nel soggiorno ingresso noi comunque mangiavamo, perché un conto è che fino a che non c'era la bambina praticamente nel cucinotto riuscivamo a mangiare tranquillamente e quindi ci arrangiavamo, ma poi mangiavamo nel soggiorno, e quindi spesso capitava che aprivi la porta d'ingresso per qualsiasi motivo, perché ti venivano a cercare, per comunque qualsiasi motivo, e vedevi quella che era l'organizzazione del momento, della serata, della famiglia, quindi in quel caso stavamo mangiando, non è che riuscivi a prendere il tavolo e a imboscarlo. Di bagno ne avevamo uno e avevamo poi una lavanderia, però in tre, già tutti e tre oramai grandicelli, perché adesso mia figlia ha 10 anni e quindi comunque servono due bagni efficienti, completi di tutto, e quindi un bagno proprio ci mancava. In più uno spazio dove poter essere, avere un pochettino, un minimo di indipendenza, nel senso che tu ti vuoi ascoltare della musica o vuoi vederti la TV con calma, eccetera eccetera, deve esserci un altro ambiente dove chi vuole fare qualche altra cosa lo possa fare. Questo unico ambiente alla fine sono le cucine abitabili, quindi devi avere una cucina sufficientemente grande che possa servire come un altro ambiente dove si sta con tranquillità. Noi abbiamo fatto questo sacrificio e il cambio è stato mirato proprio per ottenere questo, una cucina molto grande dove possiamo stare tranquillamente e chi ha voglia si guarda la TV o fa quello che vuole, e poi una sala molto più grande rispetto a quello che avevamo prima, dove c'è tutto il resto, e quindi tutto sommato siamo in 3, non 30, e quindi con questi spazi, due bagni e soprattutto finalmente un andito dove quando tu apri la porta d'ingresso chi è all'ingresso non vede il resto della casa, quello è stato il top. Ho capito, e vabbè, io adesso vediamo un attimino dove ricercare, fare e vedere un attimino, ci penso, anche perché se la cerco questa volta, come dico io, però ti ripeto, mi si gira molto le balle, dovrei andarmene in condominio, io sono sempre stato abituato a vivere in maniera indipendente, solo da piccolino in condominio, poi sempre indipendente e con molti spazi, capito? Io poi ci siamo avvicinati, eravamo un po' più in periferia, poi ci siamo avvicinati quando ero mio padre, quando ancora viveva a casa dei miei, lì a Sant'Orsola, era abituato ad avere una casa grande, con spazi più grandi, con sale grandi, anche spazi sprecati, perché casa dei miei era tra 220 metri quadri, più 70 metri quadri di taverna, tutti terrati. spazi, giardino, capito? E garage, la casa era da altri tempi, quelli, vabbè, era Sant'Orso la Stolta, quindi magari le case erano un po' più grandi e quindi c'era spazio. Gli spazi erano quelli, ero abituato in maniera diversa, capito? In città è un po' diverso. È voglia se è diverso. No, noi abbiamo fatto la politica dei piccoli passi. Prima io abitavo da solo nell'appartamento lì, in quel residence che tu sai, cioè avevo un ultimo piano con la mansarda, tra l'altro costruito in tale e tanta economia che ti dico, se ti vuoi mettere a ridere, il primissimo periodo, ti sto parlando del 1990, io e altri due siamo stati tra i primi ad entrare lì, appena costruito. Io al quarto piano, c'era questa ragazza al terzo, spostato di un... non era neanche speculare, non era in linea l'appartamento di questa ragazza qua, attorno alle 7 arrivava con il ragazzo, si sentiva tutto, ma ti dico tutto, fino al pianerottolo d'ingresso. Allora mi deve avevi la situazione a te gratis, cosa ci puoi fare? Quelli sono fatti, li ho visti, sono fatti un pochettino in maniera economica. Io abito in quello di fronte dove hanno rifatto la facciata e l'avevo preso, lo stesso era stato preso per poi farlo rigirare, invece qui avevo deciso di tenerlo. Infatti l'avevo ristrutturato due volte, la prima volta era stato ristrutturato proprio per essere venduto, poi quando ho deciso di tenerlo, infatti è stato cambiato pavimento due volte, ma è calpestato, capito? Quindi è stato messo il parquet in terra, tutto fatto, anche il caminetto avevo piazzato mai acceso, è stato fatto anche in maniera carina, per carità, la seconda volta quando avevo fatto il secondo colpo di ristrutturazione, perché avevo deciso di tenerlo, quindi anche fatto dentro è proprio carino, rifinito bene, tutto quello che vuoi, no? Però ti ripeto, sono circa 90 metri quadri lordi, quindi la grandezza è quella che è, gli spazi sono quelli, dai. Allora mi conoscevi da prima. Ciao caro, perché? Ma quando io ti dicevo che io da lì modulavo nei primi anni 90, io lì sono andato via nel 96 sono andato via. Tu? Non hai sentito? Zappa, no, ma ero io quel ragazzo lì, il tipo che entrava nella stanza della pipa. Ah, fantoma, no, non eri tu di certo, guarda. Ecco, parlava proprio Troia, perché io ci andavo intorno alle 11 e non sentivi niente. Sì, che faceva il fine, da... Allora, ve la racconto tutta. Dunque, questa ragazza di fuori, arrivava lì alle 7 con il tipo, universitari tutti e due, i genitori di lei le avevano comprato questo appartamento, però ancora non era finito lo stabile, per cui diciamo che non le avevano ancora dato l'autorizzazione ad andare ad abitare. E andava ad abitare dove? Hai visto, Fabri, nel retro che ci sono le suore, lei era lì, quindi doveva rientrare entro le 10, credo, all'epoca aveva questa possibilità. Fatto sta che quindi trombava come una dannata fino a quell'ora, a manetta, a Bocchese, eccetera, eccetera, chiunque entrasse nello stabile sentiva questi ululati. Era curioso, quindi gli ululati fino alle 10. Così mi piacciono. Ma chi c'è in ruota, perdonate? Sono noi tre, ci siamo, ma almeno carina era. Ascolto, vi ascolto. Sì, ma almeno carina era, Salvatore. Ma guarda, proprio niente di speciale. Aveva una grande dotazione di petto, forse era l'unica cosa che attraeva. e basta, per il resto basta, però evidentemente era molto performante. Che cosa vuoi di più che una performante, ripeto, niente di tutto c'è, che cosa vuoi di più? Io sto da battaglia. Ok, sì. E poi quello l'abbiamo venduto nel 2004, 2005 l'abbiamo venduto. E ma lì che cose, come, cioè, ma come sono in affitto gli appartamenti? Come, io non ho mai capito, perché è vero che arriva gente, va via gente, nei parcheggi troppo gente mai vista. Quella era un'area, adesso senza far cognomi, di una determinata famiglia che, di cui uno era anche un costruttore, con la sorella hanno raggiunto quale accordo? L'accordo che praticamente lui si accollava il costo della costruzione, la realizzazione dello stabile, e alla sorella dava praticamente circa il 50% degli appartamenti. Di questo 50% poi negli anni ne ha venduto diversi, però tuttora continua ad avere diversi appartamenti che dà in affitto, soprattutto a trasfertisti e qualche studente lavoratore, qualche studente. Ma principalmente trasfertisti, ecco perché comunque tu troverai sempre gente diversa che va avanti e indietro, perché oltre a questo ci sono poi tutti i posti auto che vengono a rotazione affittati alle persone più indescrivibili. E niente, non so se poi hanno fatto anche degli altri garage, perché volevano fare dei box auto, ma io sono andato via e ce n'era praticamente solamente uno o due fatti. Ho capito, no, vabbè, qui il fratello ha fallito. Infatti sì. Ha fallito e ce l'aveva la banca, molti appartamenti ce l'avevano la ABS in vendita, in pronto vendita. E è andato dall'asta, io poi con le aste ci lavorichiavo, quindi meglio qualcuno, un po' stato lì l'ho preso all'asta, quindi anche tutti quei cosi, quei locali di sotto sono andati all'asta. Sì, ma lui era costruito proprio in economia, infatti con mia moglie, quando avevamo già preso questo, non questo qua, un altro, quello di cui ti parlavo prima, quello lo stavamo affittando, poi quando ci siamo accorti che c'era questo dove abitiamo adesso, che era libero e che avevano intenzione di venderlo, allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in vendita quell'altro, venduto, e con i soldi abbiamo acquistato questo e abbiamo coperto la differenza con mutuo. Ho capito. Sì, avevo capito che c'era qualcosa del genere che affittavano, però alla fine non riuscivo a capire se c'era un appartamento di proprietà oppure proprio un qualcosa del genere che era tutto in affitto, no? Quindi c'erano alcuni di proprietà e alcuni affittati, ho capito. E poi alcuni, anche se di proprietà, sono stati affittati a gente strana. Proprio nel nostro piano era capitato che ci fosse, mi sembra, addirittura una che dava appuntamenti. Poi il resto della facciata stava iniziando ad avere problemi, avevamo problemi insormontabili nei garage con perdite, infiltrazioni, l'economicità della realizzazione dello stabile si stava iniziando a far sentire, e quindi come c'è stata l'occasione della vendita abbiamo preso venduto e ce lo siamo tolti di mezzo. Ho capito, sì. E vabbè, gli avete fatto bene allora, se così, perché i garage, quelli di sotto, sono proprio malsani. Io ce l'ho sulla parte di su, se è precoperto, però rimane sulla parte di su, quindi lì non c'è nessun problema, ho visto. Ma coperto o scoperto tu ce l'hai? No, coperto. Coperto, quindi appena entri svolti subito sulla sinistra? Sì, appena entri svolti sulla sinistra, è quello che dà proprio poi, è uno di quelli che dà proprio di fronte al portone d'ingresso. Ma quindi ne hanno costruito degli altri, perché io quando sono andato via ce n'era uno solo. No, quello lì non so, quello lì, perché poi c'è tutta una serie lì di parcheggi, poi scendi, ci sono tutti quelli sotto coperti, poi ci sono quelli al primo piano su, ma sono tutti scoperti quelli. Infatti io ce l'avevo proprio lì, il mio era proprio quello salendo la rampa dritto per dritto. Io ho capito, forse ma l'hai venduto separatamente. E chi era? Adesso dimmi dei segnali, ho visto per capire chi era. Deve essere Massimiliano, guarda. Dicevo Fabri, cos'hai detto? Se l'avevamo venduto separatamente? Ciao. Non è più tempo per ballare per noi, mi sa. Cioè, mi sembrava di segnare il paio, ma l'avevo voluto tu diretto, ma che invece andare a letto entra quest'ora a fare cose, che animale era? Raccomandazioni. È preoccupato perché volevo andare anche lui in giro, hai capito? Il problema è che tutte le amiche sue sono qua, c'è una più buona dell'altra. È quello il problema, che se tu sei una figlia femmina e le amiche non è più nemmeno una bambina, e ormai le amiche sono amiche, che cosa brutta, devi tapparti gli occhi e fare anche da bravo. Vabbè, se non mi sa questo, come mi sa quest'altro. E questa cosa va, questa va, arriva, vieni. Ancora presto, non è, diciamo, in doppia circostanza. Chiedi un pochettino a tua figlia, oggi a che ora è che si inizia a ballare? Perché io l'ultima volta che sono andato a ballare praticamente c'era il brutto vizio che prima delle 2:30 non si entrava in discoteca. Io a che ora inizia a ballare? A che ora si inizia a ballare? Alle 3 di notte. Se ne sono al gruppo alle 3 di notte. Aspetta, quindi le cose non sono cambiate. Per niente, alle 3 di notte. Ti mangi a te la volta alle 6, alle 3. Figurati che la rientra, mamma mia. Tutta la notte mi tocca dormire quello che fa, ma è saluti. Sì, quello lì tra ogni notte a noi ci tocca. E cosa spero? Quando dovrà andare a ballare mia figlia, spero che sia talmente slittato l'orario che si inizia a ballare alle 6 del mattino. Non ci pensare, Salvatore, ma è una cosa triste. Tua mamma mi diceva che mia figlia la verità lavora, è sempre a casa, esce solo, insomma, col... così, quando necessita, ma è totalmente molto casalinga, ma quando a me mi dice che deve andare a ballare, tutta la notte si vede, ma perché devi andare? Cosa ci fai? Ma dai, non ci andare. Cazzo, a volte dice, ma mica sei paranoico, poi ho 25 anni, non ho 14 anni. Cioè, mi sembra l'altro giorno, capito? Mi sembra proprio... che il tempo sia volato, 25 anni, 25 anni, ma io 20 anni va giù, 80. Anzi, per l'età che hai tu, io che ho quei 7, 8 anni meno di te, e la mia ne ha 10. E quindi se ci pensi bene, 10 più 8 fa 18, e quindi penso che sarò dagli incubo alla tua età, sarà un incubo. Diciamo così, che mi sono addormentato, no, guarda che io l'ho voluto, è stata una bellissima cosa al naturale, molto genuina. Mi sono suonato 25 anni, dopo mi sono sposato, sì, nell'85, nell'87 è nata lei, quindi. No, il contrario, sono io che sono, noi l'abbiamo avuta che avevamo già 33 anni, 34 mia moglie e 33 io. Ma è fatto, io non ti sei dormito prima, amico mio, io avevo 27 anni, quindi i figli ci vanno la giovane, guarda, ma non parla, Fabrizio mi conosce, ma se sono in forma che non, quando io scrivo mia figlia che è abbastanza in forma che dovrebbe dire, molto più alta di me, eccetera. Oggi dico, ma chi è tua sorella? No, tua sorella è. ma è giusto così. Infatti mi dicevo, un giorno stavo facendo questi discorsi, affrontavo questi discorsi con mamma, no? E mi fa, Salvatore, sa che noi all'età di 22, 23 anni la famiglia era già completa. Sì, lo so, Salvatore, però cioè, anche io mi sono sposato da grande, il problema è che mi piaceva addormentarmi sentirmi anche da altre parti. Ho capito. Però alla fine la cosa più giusta è che bisognerebbe averli a un'età dove poi nel momento in cui hanno il massimo bisogno della freschezza mentale dei genitori, i genitori siano ancora genitori e non nonni. Non so se rendo l'idea. Sì, ma l'età media si è allungata, dai, ma c'ho un pizzino ancora, ma sì. Io qua questo non pensavo mai, Gesù. Allora, che voglio dire, io mi sono sposato un bel 33 anni, cacchio, ma perché mi hanno legato al collo e portato lì, se non sei stata ancora Se fosse andato tutto bene c'era anche lo sparvierino. Avrebbe avuto adesso Marco 17 anni. 17 anni avrebbe avuto il maschio. E invece non ce l'aveva fatta. Era nato con una malformazione al cuore. Ma una cosa che noi non abbiamo mai avuto in famiglia, nessuno. E quindi non è andata. Io ci volevo riprovare e invece mi hanno messo il bavaglio e allora niente, figlia unica, di fatto il padre è froscio. Vabbè, una volta che si raggiunge con la pace ci vuole roba e per già lo sai. Poi è stato un dramma, perché tu immaginati che noi siamo in cinque figli, tutte femmine, e c'è mia sorella, ho tre sorelle e due maschi, sono l'ultimo dei cinque, quindi ero l'unico che era riuscito a portare sulla rete, infatti invece è morto al primo tempo, manco il film è girato. Poverino, vabbè. Anche io non ho allungato il mio cognome, ma è stoppato tutto. Oh, tu lavoro? Noi abbiamo fatto solo una figlia e basta. Poi non ci abbiamo, diciamo, non ci siamo fatti nessuna malattia. Si fanno le cose normalmente, abbiamo detto se viene viene, se non viene ciccia, non è mai venuto, poi pazienza. Cosa di stare a farti, lì sono cose naturali, purtroppo è proprio come diceva Dio, crea e ci Dio conserva, è venuto dalla mano. Invece io mi chiamo inseminetto, come tocco alla prima, un maschio non fai uno, da giù lui mascica, io al maschio vado avanti, e come deciso il primo, tutti voluti, facciamo il primo, alla prima, ma la prima, devo dire, ha detto, beh, dopo un po' di anni, dopo 5 anni, 4 anni, ci abbiamo ripensato, dai, ma ce lo facciamo un altro, ok, torna la prima, infatti, inseminetto. Oh, è Grode che sta sentendo, non è ancora intervenuto, Sì, è un croce, volevo che faccia. Di cosa vuoi fare se seminati artificiale? Beh, attacca la musica. Fatica ci vuole, cacchio. Un naso è dovuto. Anto, batti un colpo. Oh, magari sta facendo, lui. Inseminando adesso. No, sarà andato alla notte di Halloween. A lui piacciono queste uscite così notturne. Dove si può inseminare bene. Oh, ti stai andando a vedere se c'è ancora quella tipa che descrivevo prima. Non hai sentito tu? Ci hanno messo un divano un po', lo stavo ascoltando voi, ho lasciato tutto acceso, mi sono allontanato, fumavo la sigaretta e poi un altro giorno mi sono seduto nel divano, guardavo la TV, mi sono dormito, sono i morti riconoscere, mi ha svegliato, e lui è mia figlia che aveva andata a prendere una sua amica in macchina. Adesso sono qua, stanno facendo ora e poi aspettavo tutta la greffa, sono tutti qui. E quindi mi sono fatto qua dentro in cameretta. E mi ha svegliato, se non lui ha dormito, perché cosa è successo? Mi ha perso qualcosa. Vicino dove abita Fabrizio, dove, che io ci ho abitato per tanti anni, sono stato uno dei primi ad entrare in questo stabile nel 1990, io e altri due. Praticamente lo stabile, che era ancora un mezzo cantiere, in questo stabile aveva acquistato l'appartamento una famiglia di questa ragazza di fuori. In attesa che venisse completato lo stabile eccetera eccetera, questa ragazza comunque andava ogni tanto in un appartamento che era un piano sotto il mio, tra l'altro spostato, non era neanche speculare, non era nella stessa linea, e ne arrivava alle 7 di sera precisa come un orologio svizzero con il ragazzo. Dalle 7 alle 10 facevano questa tirata a bocche che si sentiva tutto quanto dall'ingresso di giù del piano terra. Minchia, c'è proprio senza pudore. Niente, proprio. Dopodiché alle 10 lei doveva ritornare di fronte, nella palazzina di fronte, perché era ospitata dalle suore. E così ogni giorno il cartellino timbravano. Adesso così vedi, io quando ero ragazzo, perché non riuscivo mai a ciullare, c'avevo una Vespa 50, allora giusto per avere i primi sintomi e cercare di creare un ciullamento un po' fasciullo, facevo guidare a mia moglie e facevamo tutte le tre campagne, io mi attaccavo dietro, lei dice prendi fusci, io tanto. Io anche quando erano giovani, anche tutto il Vespino da giovane, io ero sempre in giro, anche fermi, mi ricordo nei giardinetti di cose, quelli dell'agraria, che era tutto buio, cato dietro la strada, tutti i luoghi dove ti bloccavi, ma io poi ero un mandrillo, ero sempre da tutte le parti, poi vabbè, quindi certo la macchina, ma anche il motorino, c'è su, cose irraccontabili, capito? Cose da giovani, tipo conigli. Mai avuto motorino io, mai. Mio da te. Se dovesse parlare Monserrato, Fabia, io, appoggiato all'albero, colgato tutto bene con i miei, con i capelli lui, Ah no, e poi con la macchina c'era il coso su al, come ti dice, alla forestale, che anche i carabinieri ogni tanto ti fermavano, tra di me, probabilmente qualcosa in più in tasca già ci rimaneva. Sì, Io non so quanto avete conosciuto la benzina voi, ma io l'ho conosciuta a 70 lire. Poi non me lo ricordo da quanto, però già costava poco, già costava poco. Io già non me ne ricordo la verità. Però mi ricordo che tutte le macchine, tutti i sedili li ho tutti sfondati. No, io c'avevo quella brandina attaccata dietro. C'avevo il carrello, sempre appresso, sembravo sempre andando a caccia, e la brandina dietro. E ho il 500, la 500 era vecchia amica, c'avevo un amico, e girava con la 500, che ha visto più curioso la 500 che chissà, che qualche letto d'albergo. Sì. Mi ha fregato la macchina a mano perché c'era la 500L così ribaltabile. E invece avevo la DNC che non ribaltava nel sedile della mazza che nelle guardie. No, questa là non era non ribaltabile di questa, si andava nel sedile di dietro. E c'era. E lui le aveva regalata la sorella e lui ancora non aveva patente. E la patente ce l'avevo io, questo amico, poi l'aveva preso un altro, quindi lui è stato l'ultimo a prendere la patente, quindi ci andava a ballare, perché come sono cazzo di 500, e poi dammi le chiavi, tu, perché il batteriato mi diceva, ma è quella macchina, e cazzo qui, capito, quella macchina, il sedile di dietro, sempre si diceva il sedile di dietro, che non ne aveva nemmeno una camera d'albergo, ne aveva vista. Non era triste, era bello, era bello. Bei tempi. Tu quanti anni sei assassino di sabato? So che sei di nuovo così. Cappa, domani infatti siamo in trasferta. Io sono venuto qui a lavorare nell'87. Ormai sei quasi sassarese, io sono arrivato qua nell'85, no, nell'83, ho fatto 2 anni, mi ha mancato per preso le mie sussie perché lavoravo già a Sassari, e quindi, e poi praticamente nell'85 era pronta la casa qua, che sono cooperative della GC. E quindi da via Montegrappa mia suocera l'ha venduto ed era venuta lei qua al secondo piano, dove sono io al nono piano, e adesso sono qua nella sua casetta, poverina. Vabbè, io l'ho lasciata come l'ho lasciata loro, qualche accorgimento, ma non è che ho toccato molte cose, proprio per aspettare ancora un po', pian pianino la stiamo mettendo un po' di sesto, perché un bel di ravi, un bel di soldi, che sono rilevata quest'anno, il mese scorso ho fatto l'atto, figurati, questo quanto costa una casa, madonna santa, che ui. Però alla fine è uno di quegli investimenti, probabilmente Fabrizio sarà d'accordo, che alla fin fine c'è poco da fare, si mantengono e si rivalutano. Io lo so sì che Fabrizio è d'accordo, ma io ho già fatto un investimento a 500 metri da te. Esce molto la punta a capo, come fa lì. Esce 2 mesi d'ora. E a me lo dice, oggi non te ne ho parlato, l'ho chiamata, non so più cosa fare. Sono già 4 mesi che potrei dare già tutto in mano, forse oggi sarebbero quasi fuori, però vanno i 2 figlioli. Aspettiamo un altro po', aspettiamo è un anno, il prossimo 15, sto lavorando un'altra parte. Che mi dia almeno, inizia a pagare almeno un paio di affitti, non so proprio, adesso. Quell'altro già paga, il caso, quello casino, non lo so più perché questo c'è un po' sul groppone, ma è un anno adesso, sono un anno tondi e sono un belli di là, però. per scavare un po' di soldi, se non si riprendono più spero che cosa questo da questo fra 15 giorni non mi hanno detto, dal prossimo fine settimana iniziano a pagarlo e almeno un paio li paghi, inizio un po' a sgrossare, ma ne dubito, ne dubito. Però adesso basta, gli ho detto alle buone, abbiamo trovato un metà accordo, alle buone, ascolta se ce la fate bene, se no prendetemi un altro po' di tempo, datemi una data utile e mi ridate le chiavi, non mi fate andare da farvi scrivere, farvi fare, che diventa antipatico per voi, per me e per tutti, anche perché sono stati periodi che chiamavano, gli prestavo pure i soldi, casino, io ho parlato un casino, ma non è colpa loro, c'è crisi. Ehi Fabri, c'è crisi, va bene, però tu metti il salvatore e io faccio un investimento. Dopodiché questo investimento è chiaro che devi cercare di fare un qualcosa, però se non c'è riscontro, cioè io per poter recuperare 5.000 euro, chiaro che dovuto intervenire la gara, altrimenti troppi per aver recuperati. E poi mi servivano per fare l'atto, quindi fare l'atto qua. Adesso aveva deciso la materiale che mensilmente non c'erano problemi e invece siamo dovuti punta a capo questo secondo mese. E vabbè, io non me la sento di, purtroppo è così e basta. Adesso vedremo più avanti quando mia figlia si deciderà cosa vuole fare. E se no si vende quella lì, le ciccia, e così non è che si può stare a aspettare che ti arrivino due citi così ogni tanto, no, sono cose che non vanno bene, ho capito. Quindi domani sabato siete in tournée via Lattias. Io invece domani mattina sono in tournée anch'io, 9:07 me ne esco, faccio un girettino, vado a Nulvi, Scedini, Bulzi, la Erru, martedì non ci vado, ma dalla Erru poi me ne esco lì dalla strada del Tempio, del Fuori Tempio, a me ne rientro, penso verso le 10:30 di essere già a Sassi. E tu devi andare a Nuoro, beh, da parte, a mangiare lumache devi andare a Nuoro, a mangiare betta. No, le lumache me le lascio molto volentieri. No, ho già parlato con mamma e mamma ha già organizzato tutto, poi occasione che ci vediamo anche con le altre mie sorelle, e, insomma, un po' tutti quanti ci ritroviamo come punto d'unione, che siamo un po' tutti sparpagliati. E, no, mamma ha già organizzato, ma se la conosco bene, secondo me ha già ordinato il pranzo da qualche parte, per non mettersi lei a cucinare o a preparare chissà che. Il pranzo dei santi, anche mia madre faceva un sacco di cose, passata di dolci che avessero mai. Mia madre c'ha più di 80 anni, non è più in forma, barcolino alla mano, quindi non fa più niente, diciamo. Non fa più niente. E vabbè, bei tempi anche quelli, si invecchia e via. Va bene raga, sono entrato a farvi sentire la streghetta e mo me ne vado a nanna. Adesso mi chiudo la porta del salone. canale, faccio abbassare la TV, chiudo questa porta e mi arrivo in cuccetta. C'è una domani mattina, mi pianta lo bucco. Ciao Sabato, buona giornata per domani, allora buon weekend e buona passeggiata a te famiglia. Ciao anche a te Fabri, nel caso ci aggiorniamo domani visto che sia a riposo. Se ti vuoi far sentire per prendere un caffè non c'è nessun problema, tanto io metà mattinata sono già a Sassari. Ok, saluto a tutti quelli che sono in ascolto, buonanotte a tutti, a te Fabrizio, ascolto il finale e poi chiudo, ciao ciao, buonanotte. Io, ok, buonanotte, a domani, dai, buon lavoro, io già sono libero, almeno domani, anche la settimana libero diciamo dovrei essere più o meno, domani sono a pranzo a casa di mamma, e poi domani pomeriggio a casa di mia cognata che c'è le bambine che fa gli anni, una bambina, quindi porto i bambini e c'è una piccola festicciola, sono a giocare, ma che sia festicciola così, e vabbè, e siamo lì, dai, è organizzata domani la giornata più o meno, là. Comunque ciao, buonanotte, spegni tutto e vattene a letto, che sono mezzanotte, e avanti Salvato per i saluti. Ciao Cla, buonanotte, buon riposo, così sei bello in forma per domani. Grazie di questo, delle consuete e piacevoli quattro chiacchiere. Buon tutto, ci risentiamo sicuramente, penso, domani sera, come rientriamo dalla metropoli della babaggia, come diceva Abadan Paul. Ciao, buon tutto qua. Ciao ragazzi, Sabato. Vedete, anche quelle cose ci vogliono, lavoro purtroppo per noi turnisti, è così. Ce ne sa che cosa Fabrizio, quindi bisogna fare. Ciao, non ci paga. Anche quello è un dubbio oramai che dobbiamo fare. Ciao di nuovo, grazie a voi, buonanotte, vai Fabri. Buonanotte, hobby, un hobby per un bisogno, ma un hobby. E a Nuoro c'era un periodo, l'anno scorso sono sceso 6-7 mesi, 8 mesi, ogni giovedì scendevo a fare una terapia, questa ozonoterapia, non so se l'hai mai sentita. La ozonoterapia, ma spina dorsale? Sì, spina dorsale. Sì, caffa sentita. Ti dirò che mia mamma era candidata per seguire questa terapia, probabilmente il caso era completamente diverso rispetto al tuo, però lei c'aveva una serie di schiacciamenti di vertebre, per cui c'erano tutte quante le conseguenze del caso, ma alla fine abbiamo risolto con l'operazione. Ma l'operazione adesso la stanno sconsigliando nuovamente. No, io avevo tre erniette, di cui una che è uno o due che mi stavano dando fastidio, veramente, ma io ero a livelli ormai, che posso dire, la notte mi svegliavo 5, 6, 7 volte, più che dal fastidio, al dolore, dovevo dormire col cuscino sotto la pancia. La mattina scendevo dal letto in ginocchio e poi pian piano mi sollevavo, mi lavavo con una mano, poi quando scaldavo la schiena bene o male riprendevo, quando mi alzavo dalla sedia mi dovevo bloccare, stavo camminando, mi bloccavo e poi riprendevo, capito, proprio all'ultimo periodo non potevo più sollevare, spostare niente, cioè proprio messo male. E ho detto, come è mai possibile? Cosa io ho fatto questa ozonoterapia lì a Nuoro dal dottor Merio, ho fatto questa ozonoterapia, cioè io sono rovinato, cioè, ero anni, perché io mi sono rovinato a 24 anni in palestra, un esercizio fatto male, poi pian piano me l'ho portata dietro aumentando, ma dico che cioè che tipo, per darti un'idea, io da 1 a 10 sono sceso a 3, 2 e mezzo 3, da 1 a 10, con una scala da 1 a 10 sono sceso diciamo a 3, e poi con questa terapia sono salito intorno a 8 e mezzo 9, intorno ai 9 sono salito, a secondo del tempo sono fai 9 di 9 più, secondo il tempo 8 e mezzo, 9 e mezzo, quindi cioè, praticamente sono tornato quasi a posto. Immagina tutto cosa mi ha fatto questa cosa qua. Ho capito, però ci sono casi e casi. Scusa. Questo il tuo è un discorso di ernie, e vabbè, quindi è stato trattato come tale. Nel caso invece di mia madre, lo schiacciamento era tale per cui non c'erano più gli spazi essenziali infravertebrali. Per cui che cosa è successo? Che c'era un tale schiacciamento dell'apparato nervoso che per cui aveva dolori da morire, aveva soprattutto una gamba, era completamente dolorante, non riusciva a camminare, i problemi che hai avuto tu, quindi chiaramente la notte, il sonno, la stanchezza, il nervosismo e quant'altro. E anche lei è andata da Mura eccetera eccetera, però nel suo caso ti posso garantire che ne abbiamo sentiti veramente tanti e come al solito, come la sanità sia in Sardegna che nel resto della penisola, purtroppo senti 100 luminari e senti 100 teorie e 100 diagnosi, quello che ti dice una cosa, quell'altro il contrario di quello che ti ha detto quell'altro, tutti quanti a proporre medicine, cioè la stavano letteralmente sfondando dalle medicine, fino a che indaga abbiamo beccato questo professore che opera in una clinica a Cagliari e che opera anche a Bologna. C'è una cattedra alla Sapienza eccetera eccetera, mi sono collegato su internet, ho guardato il suo curriculum, ha sparato un curriculum da paura e quindi abbiamo detto senti, facciamo una visita da questo qua. Questo l'ha controllata per bene, girata, rigirata eccetera eccetera, ha detto guardi signora, io le faccio l'operazione, stiamo trattando casi come il suo a persone anche più grandi di lei e stiamo risolvendo con una gabbia infravertebrale che in pratica le sostiene la spina dorsale e fa sì che rimangano questi attivi questi spazi. Siccome da come lui parlava e da quella che è stata tutta la casistica che ci ha fatto vedere dei risultati delle sue operazioni, abbiamo preso lo scorso anno, siamo andati a Bologna, l'ho accompagnata io, lei il terzo giorno era in piedi. È una buona cosa, è una cosa diversa, è una buona cosa. Però invece quello che ho fatto io, tu senti i medici e te lo sconsiglio, ma non fa niente, c'è anche un amico mio, dico no, ma secondo te un bel di stronzate, anzi ho detto senti, ho detto bello, ho detto senti una cosa, ma come mai io so, perché potrebbe tipo effetto, tipo effetto, perché ti sei condizionato, perché magari tu dovevi stare meglio, sì, dopo 10 anni devo star meglio, di colpo come faccio questa cosa, sì, perché sì, stranamente di lì, leggi su internet il 70% dei casi riesce a curarli, stranamente c'era sempre la fila e ne ho sentito una marea, tutti quanti gli è andata bene, alcuni non gli ha fatto niente, io personalmente noi siamo andati in 5, poi in 6, poi altri 2, perché si passava la voce tra un collega e l'altro, quindi la moglie di quello ha portato il figlio, e bene o male quasi tutto hanno risolto, escluso qualcuno invece, questa amica che ho portato, dopo un po' di iniezioni non gli ha fatto niente, ma guardi, forse è calcificata, quindi è inutile che continui a venire, però voglio dire, di noi che adesso ci siamo andati in 8, fai un tutti quelli che ci ha mandati lui, alla fine l'unica che non ha è una persona che alla fine ne ha fatto un paio, due o tre, e non ha avuto risultati, quindi anche lui gli ha detto vabbè, a te non ti fa niente, lascia stare. Poi ho capito, il 90% delle persone nel nostro gruppo abbiamo avuto tutti, degli ultimi miglioramenti. Sì, sì, ma senza dubbio, perché anche lui nella stessa struttura dove opera lui a Bologna fanno lo stesso di queste terapie, però ogni terapia ha un suo ben determinato target. Quello che volevi dire tu era l'effetto placebo. Placebo, cioè che è una sorta di soluzione, diciamo, quando una persona si convince che quello che lui sta prendendo, quello che lui sta assumendo, se sta assumendo qualcosa, o la terapia che sta facendo, se è una terapia che gli stanno facendo, è benefica per il suo organismo e guarisce, perché si innescano tutta un'altra serie di discorsi. Sì, sì, ho capito, ma in effetti non è un discorso di effetto placebo, perché ho avuto modo di documentarmi anche su questa tecnica, una tecnica che ad esempio conoscono tantissimi atleti. Nel caso specifico invece era proprio, si doveva intervenire proprio con questa gabbia di sostentamento, perché non ce la faceva più, non c'erano più i dischi infravertebrali, capito? Quindi bisognava riuscire assolutamente a ristabilire gli spazi solamente con questa tecnica. Mamma è rinata, mamma è del 40, quindi ha 71 anni, ma è rinata. Ho capito, il placebo a quest'ora inizio a ridurre. Sì, no, l'importante è anche io, ti ripeto, anche io ormai avevo deciso di andare a farmi operare e via, invece poi meno male che ho risolto. Vabbè, poi a quell'età, se uno risolve con l'operazione che supera tutte le cose, è una buona cosa, sai. È difficile la nostra età riprenderti, perché comunque un intervento è sempre un intervento. Immaginati una persona di una certa età, addirittura ho sentito con queste nuove operazioni non si aprono nemmeno più dietro, ma addirittura alcuni dall'ombelico stanno intervenendo praticamente, fanno un paio di buchetti, entrano da lì, spostano l'intestino, intervengono dalla parte posteriore. Che caspita. La cosa sorprendente è che ad esempio è proprio vero che comunque le metodologie vengono aggiornate con il tempo. Pensa che un'operazione simile a quella che ha fatto mia madre, sino nel recente passato prescrivevano 6 mesi di immobilità assoluta, ci pensi, 6 mesi di immobilità assoluta, roba da schiattare. Mamma, il giorno dopo l'operazione l'hanno messa seduta e l'hanno aiutata per mettersi in piedi per vedere già i primi effetti. Il terzo giorno dimessa. Con che accorgimenti? Signora, lei adesso deve camminare piano piano, questa sarà la sua fisioterapia, camminare piano piano senza assumere posture strane, in modo tale da far rilavorare la muscolatura, perché la gabbia da sola non può sorreggere tutto l'organismo, ma deve essere aiutata anche dai fasci muscolari, che devono riprendere la loro attività normale. E lei adesso fa una ginnastica dolce e va in piscina. Ho capito. Buona cosa, anche io dovrei fare un po' di palestra, un po' di qualcosa, maledizione. un nuovo osservatore, io ti saluto, metto via il microfono e così mi guardo 10 minuti di televisione come al solito per stordirmi, spero prima possibile, così poi me ne vado a Nina anche io. Tanto mi ha fatto piacere la solita chiacchierata, mi ha fatto piacere, se ci sei domani proseguiamo. Niente, buon viaggio, buon divertimento, buon tutto, dai. Grazie Fabri, piacere mio, figurati. Grazie del QSO, sempre gentilissimo. Ci sentiamo domani, dai. Buonanotte e buon tutto per domani. Buonanotte, salute e buonanotte anche agli ascoltoni.